Due minuti di ritardo. A Bari su, c'hai rotto il cazzo, eh. Allora, Cruciani, tu sei nato bruttissimo, sai benissimo cosa vuol dire vivere una vita da ragno, cioè da uno brutto, che le fighe non sono fine, eccetera. Però cosa è successo nella tua vita? Che tu sei riuscito a diventare famoso, va bene? Allora, è ovvio che sei brutto come un cesso, però da famoso hai una chance. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Parenzo, prima o poi te vengo a scasso tutto. Quella che Parenzo chiama la maggioranza silenziosa, sono tutti, stai pur tranquillo che sono tutti mussoliniani. Dico niente, sono arrivati nazi 12.000, nazi 12.000, nei porti nostri, sì, nei porti nostri, sono arrivati nazi 12.000, stiamo così che andava alla grande, tra un po' se ne dovevamo andare, stanno a scappare la povertà, ma come fai a mettere al mondo tutti questi figli? Non c'hai gli occhi per mangiare, non c'è niente, e invece metti al mondo figli, ma come cavolo? Ma è possibile? Cervello, tu ce l'hai, cretino, ancora Parenzo, ma non senti che te vomi da sotto, lo senti? Insensibile. Beh, una passata di dittatura non è che farebbe male, Sta zitto, a Confindustria, dove si fate più per la plastica, invece che fai, no, la plastica la comprate, sta zitto, il presidente del Sole 24 ha chiesto 20 milioni per salvarvi, 20 milioni avete chiesto agli italiani, vai a chiedere ai rom, vai a dire a Boccia, chiediamo i soldi ai rom che ce l'hanno, gli italiani non c'hanno più niente, sono stati spremuti. Sciacquati la bocca quando dici quel nome, imbecille. Sciacquati quel nome. No, sciacquati la bocca. Allora. Sta zitto. A Confindustria. A Confindustria. Cosa sta dicendo quel mostro? Calippo. Naturalmente. Eccoci qui ragazzi, eccoci qui in prima fila a combattere anche stasera. David, eccoci, sveglia. Svegliissimi, siamo svegli. Amico sono mio, sveglia. Abbattuto da quel che sento, dalla copertina di La Corsa. Ma lascia perdere, sono creazioni artistiche, sono come i quadri di Miró, si può dire, sono come le grandi sculture, sono certo, come è vero, le grandi adesso. Pennellate. Sì, certo. Credo, ieri devo chiedere scusa perché ho dimenticato un dettaglio importante. Quando che si apparecchia dimmi? La tavola, ho dimenticato ancora di dire che la tovaglia, oltre a essere ovviamente di fiandra o cotone, eccetera, niente roba sintetica e quant'altro, deve essere ben stirata. Ma ho dimenticato di dire che se per caso vi fosse una decorazione floreale, i piatti non possono essere floreali anche loro. Creerebbe una distonia anche di colori. E quindi è meglio avere un servito, ma poi ne parleremo. Semplice, senza decorazioni. Quindi su tovaglia floreale. Piatti bravo. Semplici monocolore, bravo, diciamo. Monocolore. Bravo, non dirò le marche migliori, più quotate, vabbè, internazionali, per non fare pubblicità. Questo però questa è la cosa. Questo è un primo quando dettaglio. Invece si va in campagna, ecco, nella casa di campagna si daremo poi altre regole nel corso dell'anno, da qui a fine luglio, insomma, daremo cioè, altre non c'è regole. Dubbio, non c'è dubbio. Per le colazioni. Ecco, l'ultima cosa che volevo dire è questa. Ieri qualcuno mi ha scritto: hai detto colazione? Sì. La prima colazione sarebbe quella che voi chiamate. La prima colazione, quella quando si mangia la brioche allora? La mattina, no? Alle 8. Sì. Si chiama prima colazione. Il pranzo non si chiama pranzo, si chiama colazione. E la cena non si chiama cena, ma si chiama pranzo. Ecco, questo però vorrei fosse chiaro. Quindi io, ad esempio, stasera alle 21 vado a pranzo. D'accordo? Grazie. Intanto facci Facci dice che il Corano è un libro di merda. No. Il Corano è un libro di merda. Ma perché bisogna dire queste cose? Ma io veramente non vi capisco. All'attacco, ragazzi. Vai all'attacco. Giudicare come un libro di merda quel Corano che incoraggia la guerra santa contro l'Occidente e relega le donne in un'inferiorità che è scritta fino a conciarle come è conciata lei, che rispetto alla persona coraggiosa che ha parlato prima è la vera handicappata. Mi dispiace, mi fa veramente pena per quello che sta dicendo. Facci contro una convertita. Ma che una si chiama Fatima, che non ha Corano, mi sembra di aver capito, il Corano è un libro di merda e lei è handicappata rispetto a un'altra persona che era lì in una trasmissione. Signor Facci, poi si scontra. Senti. E mi dispiace perché lei pagherà di brutto con Dio. Addirittura dire quella parola sul Corano, lei non si rende neanche conto di quello che sta dicendo. E devo dirle solo una cosa che mi fa veramente pena. Mi fa veramente pena. Pagherà con Dio, lei mi fa pena, dice la convertita Fatima. No, ma non bisogna offendere un libro sacro, però questo è il punto. Tra Facci o qualsiasi altra persona che dice certe cose magari anche eccessive, offensive in questo caso, cioè gratuite. Lui dice che è un libro di merda perché prevede la sottomissione della donna, ma non è vero. E prevede altre cose. Ma è un errore, non è vero. Lui dice così e per lui per questo è un libro di merda. Voi tra uno che dice queste cose però. E la convertita e la convertita Fatima e la convertita Fatima, da che parte sta? In mezzo c'è la maggioranza silenziosa, in mezzo, che non sta né con l'uno né con l'altro, ma che ritiene insultante definire così un libro sacro per miliardi di persone. Dai ragazzi, su, buon senso. Che io mi sono convertita e sono italiana tanto come lei. No, o forse sì, più. Basta vedersi. Basta vederla. Sicuramente questo è sempre, tra virgolette, l'ignoranza che lei ha. Lei dice italiana e voglio rimanere qua, ovviamente. No, se io avessi l'opportunità, io non resto qua, io prendo e me ne vado. Io prendo e me ne vado, perché io mi vergogno di essere italiana. Non si capisce perché questa qua si vergogna di essere italiana, francamente. Cioè, perché si vergogna di essere italiana? Non ho capito. Comunque, cioè, perché questa comunque, convertita si vergogna di essere italiana? Forti, me lo deve spiegare. Ma me lo deve spiegare questa convertita perché si vergogna di essere italiana? Te frega, non siamo abbastanza islamici? Non siamo abbastanza aperti alla religione musulmana, non mi sembra. Ma i matti esistono dappertutto, però. Dai, adesso su. Voglio dire, non c'entra niente l'islam. Facci, i matti esistono ovunque. Se il certo islamismo, il Corano predicano certe cose che oggettivamente non sono proprio le cose per cui in Occidente si è lottato per secoli, sì. Perché non se ne va? Perché non va in quei paesi, lei e tutte queste altre persone che vivono in una maniera che è assolutamente diversa dalle regole che noi qui in Occidente ci siamo dati? In altre parole, perché non andate nel vostro ambiente, nella vostra acqua, invece di stare qui o a cercare, perché le possibilità sono queste, o a cercare chiaro. Di convertirci o, come dire, a romperci i coglioni? A proposito di immigrazione, caro Parenzo, adesso si pensa incredibilmente di chiudere i porti. Di chiudere i porti della Sicilia, di lottare verso la Calabria. A chi? Chiudere i porti a chi? Ma a chiudere i porti navi? Alle ONG, alle ONG. No, alle così ONG. Generico, furbetto di noi congrugiani, no, amico mio. Alle ONG? No, a chi? Alle ONG che non battono bandiera certo, italiana. Assolutamente, questo ho detto. Ecco, questo l'abbiamo no, detto anche ieri. No, chiuso all'ONG, chiuso tutto. Perché queste ONG che non battono bandiera italiana non portano i migranti e i tuoi richiedenti felicità nei paesi nei loro paesi? Perché non lo fanno? Perché non lo fa? Perché a Malta dal 2015 hanno improvvisamente chiuso le una porte? Vergogna. Infatti, ma vergogna, non è una vergogna. Malta fa i cazzi suoi. Si fa i cazzi suoi. Eccolo, dal 2015 eccolo, il eccolo. Turismo è esploso a Malta. Malta fa i cazzi propri. Se questi qua, se tu chiudi le porte, questi non arrivano. Non è che stanno lì in mare a morire. Ma se tu chiudi le porte, non ma partono. Perché i trafficanti gestiscono le persone. Esatto, non ma partono. Ma guarda che la paura della guerra. Ma no, tu stai scherzando? Ma non la gente non si ferma, non ferma la felicità, non la puoi fermare. Questa è la retorica, questa è la tua retorica. Questi scappano dalla guerra, ma questa è la tua retorica. Questa è la tua retorica. Ma non le ha fermati la legge Bossi Fini, vecchio mio? Ma di che state parlando? Se esistono i trafficanti, esistono quelli che partono, altrimenti questi qua non partono. Ah, non partono? Non partono, no. Ah, secondo te partono perché vogliono fare un viaggetto? Ma non ho detto questo. Ho detto semplicemente: se c'è qualcuno che li accoglie e i trafficanti, che spesso, d'accordo con quelli che li prendono, li portano da qualche parte, questi qua non partono. Non partono. Se sanno che a Malta non si può entrare per mille motivi, non ci vanno nemmeno. Non partono nemmeno. Non muoiono in acqua. Ma non lo dico, cioè, lo dico a loro favore. C'è tutto un gioco, è tutto un business, è tutto un guadagno dei trafficanti. Per non parlare dei giochi politici intorno. Allora, signor Fazio dice che è spiacevole quando si invita all'insurrezione popolare. Credo si riferisca al signor Gasparri. Fazio, come sapete, ha pagato oltre 2 milioni all'anno dalla RAI dopo aver detto che la RAI è politicizzata. Quando si invita all'insurrezione popolare, insomma, per chi lavora per il pubblico è una cosa molto sgradevole, anche perché nel mio caso, ti ripeto, io ho ricevuto un'offerta molto importante, molto generosa e anche molto impegnativa, ma ho ricevuto un'offerta nell'ultimo istante possibile per me, perché avevo preso un impegno altrove. D'altronde, se non avessi informato la RAI di un impegno altrove, avrebbero detto che è stata una fuga per denaro. Se rimani, rimani per denaro. Insomma, quando si sceglie un piano di conversazione di questo tipo, purtroppo, insomma, non c'è niente da fare. Allora, sostiene Fazio di avere ricevuto un'offerta che scadeva a un certo punto, cioè di essere in trattativa, probabilmente con la 7, probabilmente con un'altra rete, non lo sappiamo, ma credo con la 7, un'offerta che scadeva la RAI, e l'ultimo secondo ha superato quell'offerta. Sì, no, va benissimo, per carità, diciamo che dall'altra parte non arrivano certezze di questa cosa, molti sospettano che lui abbia giocato intorno a questa presunta offerta, no? Ma sì, ma ci può stare tutto, per carità. Quello che io non sopporto è il fatto che uno fino a 2 secondi prima si sia lamentato sulla RAI politicizzata, che tra l'altro non era nemmeno una grande scoperta, e dopo abbia firmato con la stessa RAI che dichiarava politicizzata, impossibile lavorare, la politica è invasiva, eccetera eccetera. Questa è una cazzata, cioè è una cazzata, sì. Scusate, toglietemi tutto ma non la zanzara. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta La Zanzara. Zucchero, la la la la la, zucchero, la la la la la, zucchero. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Oh, a proposito di immigrati, la vecchia teoria per cui abbiamo bisogno di migranti altrimenti non si fanno figli, la solita cosa, abbiamo bisogno di migranti perché non si fanno figli. Ragazzi, qui almeno io personalmente non sono contrario all'arrivo dei migranti, figuriamoci, assolutamente no, la gente regolare, la gente no, la gente che arriva qui e non sa che cosa fare, la gente normale che, di cui le imprese hanno bisogno, molto semplice, gente qualificata, gente competente, gente che può fare anche qualsiasi tipo di lavoro, ma non chiunque richieda felicità, come dice Parenzo. Comunque il signor Caprari, se certamente non gente che ci serve a fare figli, che è un discorso assurdo, Caprari. L'immigrazione è qualcosa di cui abbiamo un disperato bisogno. Non lo dico io. Sono anche già. Non lo dico io. Quelle politiche messe in campo ora. Bisogna cambiare le politiche perché gli italiani possono di nuovo avere dei figli. Perché se continuiamo a dire gli italiani non fanno figli e diamo tutti gli aiuti agli stranieri, è ovvio che io non lo interrompo. Va bene ragazzi, andiamo a Roma, Francesco, vai. Io volevo parlare del fatto del cartello al Gay Pride di Latina. Sì, come no. Allora, sì, premesso che io sono gay, ma sì, sono totalmente contro le parole della Cirinnà. Perché un cartello, a parte il buon gusto che è del tutto soggettivo, ma è del tutto lecito, perché io credo che se quel cartello lo avesse esposto una lesbica durante il Gay Pride, nessuno avrebbe sollevato la questione. E quindi credo che la questione sollevata solamente perché si trattava di un eterosessuale. E questo va a rimarcare un po' la mania di persecuzione che abbiamo noi della comunità gay, e siamo subito pronti a gridare all'omofobia. Sì, no, Francesco, ma io sono d'accordo con te. D'altra parte, quello striscione là è stato esposto in maniera certo plateale per provocare, per creare una discussione. C'era esibizionismo come in tutte le cose, ma c'è esibizionismo anche nelle persone che vanno al Gay Pride. Cioè, esatto, non capisco perché una senatrice intelligente come la Cirinnà se ne debba uscire dicendo che quell'uomo ha bisogno di essere rieducato. Beh, adesso rieducato non vuol dire. Ma ho capito, ma sicuramente perché è stato un maleducato. Ma ha maleducato fatto una perché? Cosa. Ma guardi, signor Parenzo, io ho visto al Gay Pride spesso anche magliette con scritto "scusa mamma, ma mi piace il cazzo", quindi voglio dire, la maleducazione, il buon ma gusto, certo, alla fine è soggettiva. Certo, quello è plateale, scritto sopra un balcone, uno va al Gay Pride con la maglietta, è diverso. Appunto. Ogni cosa è diversa, ma non c'entra niente, a parte che la volgarità di scrivere "viva la figa" io non la capisco dove sta. Infatti, cioè, dove sta la volgarità? C'è scritto "viva la figa", vabbè, insomma, si sentono tante cose, "viva la figa" è una delle cose minori, diciamo, da un certo punto di vista. Esatto. E poi, perché farlo rimuovere? Quello che mi fa impazzire. Perché è intervenuta la polizia, come ci ha raccontato ieri il protagonista di questa vicenda? Infatti è una cosa che neanche io capisco. Perché cioè, io interviene la polizia per che cosa? Cioè, perché mi sembra intervengano i commessi dalla Boldrini. Esatto, cioè, ma che su una cosa inutile poi. Cioè, ma su una cosa, su uno striscione messo così che non fa male a nessuno. Giustamente quello diceva ieri, ma andiamo allora a cancellare tutte le scritte che ci sono per le città d'Italia, offensive, eccetera, bisognerebbe fare una grande opera. Uno scrive "viva la figa" durante il Gay Pride, non va bene. È una cosa. Ma questo ragazzo è un omosessuale di Roma, Francesco, ci sta dicendo esattamente la stessa cosa, non ha i paraocchi come quelli delle associazioni, spesso quelli delle associazioni. No, è una cosa oggettiva, voglio dire, cioè se l'avesse scritto, cioè, tu una sei lesbica, gay, no? Sei gay e concordi con quello striscione, cioè nel senso, ma sei certo, d'accordo? Ma non c'è nessuno. Cioè, se passavi da là ti mettevi a ridere, insomma. Ma sì, esatto. Vabbè, ciao, ragazzi. Carlo Pescara, vai. Salve, è un po' che volevo parlare. Vai, con dimmi, veloce, vai. Con il signor Parenzo, sì, sì, per un servizio che lui come responsabile dell'area che tira da un po' di tempo sulla sette è mandato in onda. Sì. Su Pescara. Vabbè, dai. Vabbè, ma non voglio parlare, ma cosa le, no, adesso, sì, no, di cosa la capitale, parlare, sentiamo, sentiamo. Capitale Rom d'Italia. Sì, sì. Vabbè, ma è un modo di dire giornalistico, ecco, la capitale, bravo, Rom, esatto, d'Italia, dai, bravo. Su, non siamo, non essere stupido, Carlo. No, no, ma chi se ne frega, ma nessuno vuole offendere Pescara. Comunque il titolo era quello lì, esatto, il titolo era quello lì. E allora che vuoi? Che il servizio, non per il titolo, ma chi se ne servizio frega, ma protesta, protesta con la redazione dell'area che tira, che ce ne frega a noi, no, capisco che puoi passare parlare direttamente con lui, ma qual è il problema di quel servizio? Non me lo ricordo nemmeno, che cazzo gliene frega la gente del allora, servizio andato in onda sulla 7 un giorno di due settimane fa sui Rom, dimmi una cosa concreta. A Pescara in tanti ci siamo fatti un sacco di risate per il falso che è stato riportato, ma cioè il servizio falso? Completamente ma falso. Cosa dice? Quando tu ma vuoi cosa dare dice un'immagine completamente distorta di quella che è la ma realtà. Ma c'era una la famosa festa del noi ormai ce la dobbiamo a ridere, perché anche per che ne so, per rivalità sportiva, sì. Pescara. Vabbè, arrivederci Antonio, provincia di Napoli. Lei non sta dicendo niente, niente, nulla, niente, zero. Antonio, provincia di Napoli. Almeno faccia una polemica fatta bene, il nulla più assoluto, il nulla più assoluto. Antonio, provincia di Napoli. Mamma mia. Ciao Giuseppe. Dimmi. Grande Giuseppe, tu mi devi aiutare, che forse ti è possibile. Dimmi. Vorrei sapere chi è il costruttore dei gommoni dove c'entrano 300 persone. Visto e considerate che i battelli si sono esauriti. Un altro senza spostato. Gommoni a nuoto non si va. Un altro qualcuno, spostato. Non lo so chi sono. Qualcuno dovrà costruire fornire. E chi sarebbero, no? La fiera te degli spostati. E lo vorrei sapere chi è. Niente, è una ditta nostra. Non lo so, i gommoni quali? I gommoni, niente, la ditta nostra, dici, i gommoni quelli con cui trasportano i migranti, dici. Perché se si ferma li faranno lì in quei li faranno in quei posti là direttamente, però ma non lo so. Non penso che sono organizzati così. Dunque che cosa è che sospetti tu? Se uno taglia la fornitura, certo, al muto non possono venire. No, non credo che abbiano problemi a procurarsi i battelli con cui viaggiare. Ciao Antonio, Andrea Ravenna, ciao. Andrea Ravenna, vai. Sì, ciao. Dimmi. Niente, su facci. Allora, premetto, facci, mi sei sempre stato sui coglioni. stavolta al 100% con Facci, è una cosa inaudita. Questo ha detto una cosa, la sua opinione è sacrosante. È come che Dolomagnosi che dicessi: a me la piadina mi fa schifo, è un giudice, mi dice per 2 mesi, 12, te non devi più mangiare, non devi più prendere stipendio. Ma siamo folli. Questo ha detto: questa cosa mi fa schifo, è il suo diritto dirlo, è il suo diritto. Sì, come no, ma non capisco perché privato. Se io dico la Bibbia è un libro di, come ha detto Facci, non se lo io diresti dico, perché è offensivo. Ma non lo direi perché non me, ma ti perché posso non... dire, no, non lo di... bravo, sai perché non lo diresti? Uno, perché sei comunque alla fine una persona educata. Due, perché ti renderesti perfettamente conto che stai offendendo miliardi ma di no, persone. Ma no, a me cioè offendere quando se io sono convinto di quello è che dico, una, se devo no, offendere non me ne frega nulla. È un'offesa gratuita che non ha giù, che è a parte che è stupida, perché è un'offesa che non voglio ma dire, se falsa, quello pensa che è un libro di merda perché contiene delle norme o dei precetti contro le donne sottomesse e altre cose ancora, è un'offesa gratuita. Ma è la sua opinione. Se qualcuno si sente offeso, ma vada in tribunale, si coalizzassero gli islamici italiani contro di lui. Ma non è tutto uguale, cioè che bisogno c'è di usare una parola così pesante nei confronti di un libro sacro per miliardi di persone? Io è questo che non capisco. Vabbè, fermi là, in conclusione, prima del GR facciamo riascoltare Facci, ragazzi, ci sentiamo dopo, Va bene. Fermi là, Facci e il Corano, ciao, libro di merda. Giudicare come un libro di merda quel Corano che incoraggia la guerra santa contro l'Occidente e relega le donne in un'inferiorità che è scritta fino a conciarle come è conciata lei, che rispetto alla persona coraggiosa che ha parlato prima è la vera handicappata. Mi dispiace, mi fa veramente pena per quello che sta dicendo. Io sta male, sento dalla voce che sta male. Lasciativo parenzo e alla defecazio non ci penso. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta La Zanzara. Tu sai chi è Vittorio Arrigoni? Tu sai chi è Vittorio Arrigoni, povero stronzo? Lo sai? Lo sai o no? E stai lì alla radio, a permettere fortunatamente a persone, almeno come me, di dire qualcosa sensata. Volevo dire che Vittorio Sgarbi mi ha veramente rotto il cazzo. La mia nonna 82 anni cominciamo l'aria condizionata quando sente caldo gli dare il ventilatore, capito? Con la mano del ventilatore. Questi, visto che inciando da fa un cazzo tutto il giorno, piassero un foglino di cartone, lo piegassero un lato e poi in fondo gli fanno un manichino, viene fuori un bel ventilatorino. Un bel ventilatorino di quelli a mano, no? E dopo si fanno fresco nel muso. Raga, mi ti è rotto il cazzo queste storie. Comunque domani voglio parlare perché voglio mandare a fanculo quella merda di Parenzo e voglio chiacchierare con quel cazzo di siciliano. Cominghio, puccio, ma parla italiano, demente. Ciao, stronzi. Mi vergognavo di dire che avevo fatto un calippo. Allora io voglio ricordare però tutto l'exploit della mitologica Lucia da Pordenone, caro Parenzo, a questo punto direi che lo possiamo ricordare, no? Cioè direi cosa che è il caso, fare? È il momento di ricordare. Vuoi sì, tutta la grande vicenda, sì, capito, la grande vicenda dell'altra sera. Sì, una monografica vuoi direi, fare. Una monografica di qualche secondo, però a grande richiesta per ma tipi da Zanzara, ma Lucia da Pordenone, via. Tipi da Zanzara. Lucia, fermo, dici? Lucia, che è successo? Lucia, la puttana. Oh, senti che bella risata. Mi hai chiamato, io ti ho risposto. Cara Lucia, stavi all'ascolto, signora, che non stavi lavorando? Io come sempre vi ascolto, sempre. No, io sempre non lavoro, pensavo dicesse. Comunque, andiamo avanti. Ma guarda, Parenzo, sì, non incominciare a offendere, perché io posso sentire la radio e lavorare. Sì. Ma stavi lavorando? Cioè, hai mai fatto, scusami Lucia, hai mai fatto un pompino mentre ascoltavi la Zanzara? Che orrore. Io sempre. certo. Allora, ragazzi, mi avete rotto i coglioni. Lucia è una mia grandissima amica, ancora non l'ho conosciuta. Andate in massa, voi puttanieri del, ma del Friuli. Ma adesso non mi vedo, c'ho le pannocchie. Come c'ha le pannocchie? Scusa, che vuol dire che c'ha le pannocchie? Non c'è, ma non è mai andato nessuno da questa qua, ma ti rendi conto? Che vuol dire? Che sei... Ma ascoltami, Parenzo. Andate tutti va da Lucia. Che tu, io ho un'antipatia con te. Però cerca di non offendere troppo. Una prostituta di Pordenone, me la sento. No, di Codroipo, Codroipo, Codroipo. Va bene, nessuno avanti, tocchi Lucia, lo dico la anche nonna, ma nessuno amici tocca. Non ti preoccupare che non la sfiorano nemmeno con una canna da pesca. Ma guarda che neanch'io ti tocco io a te, ma perché mi fai proprio altro schifo. Quanti anni hai, Lucia? Se sa, fra poco faccio 61, amore. No, tesoro, ieri ha chiamato una di 60 anni che mi voleva scopare, lo sai? Anch'io ti voglio scopare. No, no, che mica, bello no, ambiente. Porco ma come sei. Che bello ambiente che siete. Un bello ambiente siete. Ma tu, ambiente di maiale, ma tu mi attacchi però le malattie, però, Lucia, come fai? Ma che non malattie? Penso la polvere proprio, perché io vado quale con malattie? Il guanto. Eh? La polvere, e io la polvere vado ogni 6 mesi a farmi le visite. Ma non, tanto non c'è niente. A pagamento. Che malattia ti sei presa nella tua vita da prostituta? Niente. Ti sarei presa da qualche prostituta niente. Sì, una, un qualche solo la tiroide e la pressione, basta. Ah, e la tiroide pure, la pressione. La tiroide. Ma però non ti regge tanto quando più fai la zoccola. Tutti i clienti che ci sono rimasti dall'orrore. No, dai, cioè, ma è morto sì, qualcuno dopo essere stato con te? È morto tutti, sicuramente. Uno è morto, uno vedi, è morto. Come uno ovvio è morto? Dall'orrore, dall'orrore. Uno è morto. Ma quando è morto, scusami? Ma 10 anni fa. Cioè ti è morto, ti è morto lì mentre scopava con te? Era l'ultimo. No, ma non ci credo. Ti ma giuro, è arrivato lì ubriaco, si è svegliato dal letto il giorno dopo, detto, mamma mia, cosa ha fatto? Cruciali, è ti morto giuro. Ma come ha fatto? Non, non potevo partire perché è morto dentro. Te lo ma dico come, io com'è andata. Come è morto dentro? Te lo dico io come è morto dentro il camper. Quello lui era un mio cliente. Sì, figurati. Sì. Veniva ogni 15 giorni. Ma... sì, sì, sì. Quando è venuto mi fa, dice, sai, c'ho un po' di problemi, sì, è morta mia mamma, tutto quanto. Ho detto, ma non sta, parliamo di queste cose qua, frega, zio. Certo. Allora facciamo. Lo facciamo. Facciamo, scopiamo. Tanti no, problemi, no, no, lui non scopava. Che faceva? Pure in dettaglio. Che pure, eh? Vabbè, chi se ne frega, non importa. Che Calippo, questo è venuto. Sì. Io, mi fa, dice, mi fai solo questo? Sì, ho detto, va bene. Sì. Dopo un po'. Sì. Vedo che cade per terra. Beh. Cioè dopo il calippo? No. Quando? Durante? Mentre facevo il clippo è caduto per terra. Non ci posso credere. Ti giuro. È un'assassina pure. Che non cioè dovessi arrivare a casa. Cioè, allora tu praticamente mi stai dicendo che mentre facevi un lavoro di bocca abbiamo questo capito, cliente, abbiamo capito. Ma devo dire così, questo qua è schiattato. È morto. Ho chiamato la mia amica, ho detto Madonna Santa, questo qui sta tutto tremando. Come devo fare? Chiama l'ambulanza. Sì. Arriva l'ambulanza. Sì. Che era già morto. Era già morto. Di che? Di infarto? Di cosa? Di droga? Di infarto. È schiattato mentre tu gli facevi la pompa. Ma non ti hanno indagato niente? Non ti hanno indagato nulla? No, aspetta. E l'ambulanza fa, dice, perché cosa è morto? Cosa ne so? Ho detto io. Mi vergognavo di dire quello che era successo. Un calippo. E i carabinieri dicono, perché cosa è morto? Cosa ne so io? Venga qua Lucia. Dica. Scusa, come l'hanno trovato? Come l'hanno trovato? Con la patta di fuori oppure rivestito? No, io ho tirato sulle mutande. Ah, gli hai tirato sulle mutande prima? Sì. E perché non l'hai lasciato lì con l'uccello di fuori, scusa? No, mi vergognavo io, dai, era nel mio camper. Ah, ti vergognavi, fai la puttana e ti vergogni. Ma, la cosa ma mi vergogno quando vedo l'ambulanza è arrivata. Capito, Parenzo, si vergogna. Mi vergogno io di queste cose. E dopo è venuto, sono venuti i carabinieri, mi fa, dice, Lucia, adesso tu mi devi dire la verità, perché cosa è morto? Per un pompin. Proprio così gli ho detto. Per un pompin. Oggi che hai fatto? Oggi hai lavorato oggi? Oggi uno ho fatto. Uno, ma era un po' uno roba. Buono, basta. Buono che vuol dire? Cioè, quanto buono? Ma ti ha lasciato un centinaio almeno? No. Magari. Niente, 50. Quanto ti ha lasciato? Ecco. 50, amica mia, 50 euro hai fatto oggi. Stasera poi ti ritiri oppure resti lì? No, vado a casa stasera. E solo 5? Come cazzo fai a campare con solo 50 ma euro? Ma non importa, io vivo di giornata. Io preferisco te, anche se bene, sei sozzo, piuttosto che Parenzo. Che bella pubblicità che ti ha fatto. Sei guarda, anche un ebreo. Ancora questa storia. Eccoci qui, eccoci qui, caro David. Sì, questo, sì. È riassunto, una bella, questo è il riassunto dell'altra sera. Una bella ricostruzione hai fatto. Una grande ricostruzione storica, storica. Franco storica, dalla provincia, sì, di Roma. Vai, Franco. Pensa a te. Franco, buonasera, Cruciani. Stai tranquillo, Franco. Promette, dimmi. Molto male anche questo, sai? Sto traffico col camion, mi fa aspettare 40 minuti al telefono. Ma come devo fare? Senti, non è colpa mia, se hai aspettato 40 minuti. Male, no, non spezzi male le gambette a nessuno. Lo promette male questo, Franco, te lo dico io. Te lo dico io. Allora, io ce l'ho con No, eccolo qua. Vedi, sì, io perché ce l'hai questo con Parenzo? Perché? Perché? Perché io sono un camionista. Sì. E io ho sentito il collega mio che ha parlato con lui. Beh, sì, era un po' mussoliniano quello, era un po' mussoliniano. E io sono peggio di lui. Guarda, io sono il calzoncino nero e la maglietta nera. Aspetta, Franco, però cerca di collegarti bene. I camionisti sono specializzati nei collegamenti con i loro baracchini, eccetera. Se no non ti sentiamo, caro Franco. Togli viva voce, togli tutti gli attrezzi, altrimenti non ti sento. Niente, ho cruciato, ho il telefono. Richiama sto deficiente, richiama Franco. Maglio, provincia di Udine, vai. Maglio. Buonasera. Sì, dimmi. Dico subito, torniamo al discorso di Facci un attimo. Sì. Per principio nessun libro Facci, è un libro di merda, Facci, no? Ovviamente. Facci o Fazio? Facci. Facci. Facci. Ma perché nessun libro è un libro di merda? Dipende, il Mein Kampf è un libro di merda. Che vuol dire? Una volta letto, è un libro. Il problema bisogna girarlo. Il problema io bisogna? Io ho a che fare con un afgano, un ragazzo afgano. Sì. E una sera gli ho chiesto. Sì. Questo oggetto è la Costituzione italiana, questo, sì, è il vostro libro sacro, lì, il Corano. Cosa viene prima? Sì. Viene prima il Corano. Lo so, ma infatti il punto non è anche quello. Non è un libro religioso, questo è il problema. Vabbè, adesso non senza entrare nei dettagli, qual è il problema? Che non può essere definito un libro di merda? No. Uno si assume le responsabilità di quello che dice. Per me nessun libro è di merda. Ma non è vero, il Mein Kampf è di merda. Ci sono tanti libri che possono essere definiti di merda. No, cioè, secondo Facci il Corano è un libro di merda. E va bene, o è un parere suo, qual è il problema? Non ho capito. Qual problema è l'offesa? Non capisco. Secondo me è un libro di merda. Perché dice questo e quest'altro. Dov'è l'offesa? Parenzo, io non la capisco l'offesa, dov'è? Francamente, non c'è bisogno nessuno che argomenti o che spieghi. Mi sembra abbastanza evidente. Permettetemi. Parenzo confonde. Sì. Non confonde niente. Non è un libro religioso, Parenzo. Maglio, arrivederci. Aldo dalla provincia di Teramo. Non lo so. Aldo, provincia di Teramo. Dai, Aldo. Pronto? Sì, dimmi, Aldo, dimmi. Senti, io volevo dire qualcosa al signor David Parenzo. Eccomi qua, caro. Prego. Buonasera. Senta, buonasera a noi, delle sue abitudini che dice... Sì. A tavola la bottiglia, sì, mi raccomando, bagnoli, queste cose qua, sì, di vetro. Noi siamo abituati così e sentirlo da lei. Bene, meno male. Ho capito perché lei si vanta tanto di queste cose. No, non mi vanto per nulla. Io chiedo semplicemente, faccio un appello. Se mi invitate, mi è capitato qualche volta di andare a delle cene e trovare delle bottiglie di plastica a tavola. Ho preso e me ne sono andato, ma con educazione. Qual è il problema, Aldo? Non ho capito. No, il problema è che praticamente anche noi da a tavola, quando siamo tra di noi, tra di voi chi? Noi chi? In famiglia. Allora? Se ad esempio viene un ospite, è ovvio che ci comportiamo di conseguenza. Ma chi ti ha detto niente? Va bene, ma ti sei sentito offeso da che cosa? Non ho capito. No, a noi ci dà fastidio. Il problema di Davide è che ci dice delle cose sue, come si comporta. Ma ma scusa, se non ti va di sentirlo, spegni la radio e non ci rompere i coglioni. No, ma arrivato a questo punto qua, mi piacerebbe molto sapere dal signor Parenzo, anche intimamente, lui come si comporta. Sì, vabbè, ciao Aldo. Interessante. Ma che cazzo ne so, un collegamento assurdo. Franco è tornato intanto, no? Franco. Sono qua, Crucia. Allora? Allora, io sono più mussoliniano del collega mio che ha telefonato ieri. Ma come mai siete tutti fascisti? E come mai chiamano tutti qui, la seconda domanda? No, ma perché sei tu? Odio gli extracomunitari. Ecco. Non li puoi vedere. Non li posso vedere proprio. Primo perché ci hanno rovinato il suo lavoro. Aspetta un attimo, che adesso dopo la pubblicità torniamo. Fermo lì, Franco. Per il tuo cervello scegli il meglio, la zanzara. La zanzara. Fidati di un miserabile. Fidati di un miserabile. Io vorrei parlare di fica. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la zanzara. Yeah! Da quando sento la zanzara mi si è aperto un mondo. Io cerco di emularvi in tutti i modi. Per esempio, quando Cruciani parlava di pisciare il lavandino, io ho cercato di farlo, ma siccome sono basso e c'ho il cazzo corto, non ci riesco. Poi fortunatamente Parenzo mi ha dato subito l'idea geniale. Adesso piscio nelle bocce di vetro. Grazie Parenzo. Ma perché a Parenzo non lo mandate a fanculo, quel comunista di merda? Naturalmente. Parenzo, sei solamente una gran merda. Mai lavorato, mai sudato, ma vai a fanculo, coglione. Cioè, ogni tanto nei tuoi confronti c'è un accanimento, sì, anche inutile. Io sono costretto, sì. Cioè, sono costretto spesso a difenderti da alcuni emeriti coglioni non che non argomento, dici, ma sei solo un coglione. Ecco, per specificare. Quindi, Fa molto arrabbiare il fatto che tu hai detto che non sudi e poi dai dei consigli. Ma non sudo anche quando taglio l'erba in giardino in nella casa in montagna. E dai dei consigli sul bon ton a tavola. Sai, però quello che tu sai. Dici che non è una cosa solamente da ricchi, vale anche per i poveri, tu ma dici. Che è una questione di buon gusto. Ci sono regole basiche che chiunque può applicare e stare meglio, vivere meglio. Ad esempio, una bella tavola apparecchiata bene con una tovaglia in cotone e non in plastica non costa molto di più, mica bisogna prendere qua. Togliere la bottiglia di plastica dalla tavola e mettere l'acqua in una brocca di vetro, se ne trovano anche da 4, 5, 6, 7 euro fino a 30, 50, 70 euro. Insomma, il buon gusto non ha prezzo, non serve il portafoglio per il buon gusto. Queste persone insomma, qui questo non chiamano, è meno una brocca 30 euro, dici no, che ma può uno una brocca di vetro, mica devi prendere quella di cristallo per forza. Ma che 30 euro hai detto? 30, comunque vabbè. Io ho detto 30, ma trovi anche brocche a molto meno, no? Quindi adesso aspetta, non voglio dirti quali negozi. Sì, però, certo. Parenzo, le brocche di vetro 20-30 euro, ma di cristallo, ma te dove vivi? Ma te veramente non sai quanto guadagna un operaio, non ti rendi conto, te sei proprio fuori dal mondo, come tutti i ricconi come te, i politici, gente che non sa un cazzo di nulla quanto costa la vita. Ma vai, vai, vai Parenzo, vai a parenzare, vai. Parenzo accomunato alla casta. Parenzo come la casta. Ma voglio dirti, non occorre ad esempio avere, ti do quest'ultima cosetta, sì, non occorre ad esempio avere dei sottopiatti d'argento, che peraltro sono molto belli, però impongono anche una cura e una manutenzione, cioè impongono che ad esempio qualcuno o personale di servizio non o la dubbio. Moglie o la suocera ogni volta te li puliscano, sì, certo. Li lucidi, perché altrimenti diventano di quel colore fastidioso, opaco, brutto, segno di antica ricchezza, mentre devono essere splendenti. Allora? Se tu però non hai sottopiatti d'argento, non importa, ti compri i sottopiatti di vetro, quelli vanno benissimo, li trovi a prezzi assolutamente raggiungibili e quindi fai la tua bella figura, capito? Non serve il portafoglio ricco, basta avere buon gusto. Allora, intanto, mentre Parenzo parla di come bisogna apparecchiare la tavola, no, ne parlerà ci lui. Sono brocche, mi segnalano anche da 430 euro per intenderci, sì, in certo, cristallo. Che a te piacciono molto, tra l'altro. No, non ne ho da 430 euro. Allora, mentre Parenzo parla di queste cose, sì, in Basilicata, scusa, cosa accade? Sì. I consiglieri regionali hanno restaurato i vitalizi. Non per loro, ma per i predecessori che li abolirono. Cioè, i predecessori hanno abolito i vitalizi. I nuovi consiglieri regionali li hanno rimessi in piedi per i precedenti consiglieri regionali, con la motivazione molto semplice e offensiva nei confronti delle persone: videro sacrificato un diritto acquisito. Un evidente danno nei confronti dei consiglieri della passata legislatura che vedono sacrificato un loro iniziale diritto acquisito. Hanno rimesso i vitalizi. Roba incredibile, guarda. La Basilicata. Ma perché deve esistere una regione che si chiama Basilicata? Beh, questo cosa c'entra? No, ma perché ma deve esistere, come il Molise, queste regioni così ma piccole? Ma sono ottime regioni. Ma perché invece, deve bellissime. Esistere una regione che si chiama Basilicata? La Lucania. Sì, ma non dico che è brutta, è bellissima. Ma perché deve esistere una regione che si chiama Basilicata? Venga incorporata, dillo, o alla Campania o alla Calabria. Dillo alla nostra collega. Ma non mi interessa, della Barra sicuramente adesso si incasserà. Ma non certo, mi interessa. La Basilicata non esiste. Venga incorporata dalla Calabria o dalla Puglia. eccetera. Perché è troppo piccola, è una struttura burocratica in più. Come diceva una volta Lutto, anche a proposito del Molise, che dovrebbe essere soppresso, giustamente. Il Molise va soppresso. Sia totalmente inutile Molise, tal Molise. Esatto, bravo, è voluto da signor Camusso, da sindacato. Non c'entra niente, sindacato. CGL ha voluto questo Molise totalmente inutile. Questo è vero. Noi pensa che con una SCAD, un aereo, si può buttare bomba intelligente su Molise e risolvere il problema di reggio totalmente inutile. Noi in America risolviamo il problema con la Basilicata. I don't know what is Basilicata totalmente inutile. Bombs, anche là, bombs. Signor Camusso, grande problema. Camusso è problema di questo paese, signor sindacati. Il sindacato grande problema. CGL, CISL e UIL hanno fatto più danni che Camorra, Andrangheta e tutte le criminalità. Noi americani pensiamo. Ma che ci vogliono? Così. Bombs? Noi che ci vogliono? Ma only bombs, ma droni. Ma anche su Basilicata, only bombs. Soprattutto Basilicata non ha alcun valore, alcun PIL produce, non ha alcun senso. Questo quindi, è vero, questo che non è, vero. È Filippo Sensi che è portavoce di signor Renzi, ma è Sensi nel senso di senso, non ha alcun senso. Ma hai ragione, la Basilicata, ragazzi, adesso al di là di quello che dice Lutto, che c'era sempre con l'Italia eccetera, però la Basilicata va cancellata. Troppo piccola, va, mi incazzo per le regioni piccole che sono tutte una roba burocratica, le burocrazie eccetera. Ma dai, e Molise è semplicemente il caso estremo di questo sfruttamento amministrativo degli italiani che lavorano, perché lì ci sono 300.000 abitanti, una regione, due province, giù due giunte provinciali, 105 comuni. Su 300.000 abitanti ci vivono un numero straordinario di amministratori che fanno pochissimo, solamente prendono i propri salari. Stessa cosa si può dire della Basilicata. Alfredo da Napoli, vai Alfredo. Maestro, buonasera, perché tu per noi sei un maestro di vita, noi siamo un gruppo. Alfredo, di però fammi sentire bene di quello che dici, perché non si sente niente. Maestro di vita. Simone da Milano. Ciao David, ciao Giuseppe. Dimmi. Salve. Allora, vorrei parlare dell'immigrazione, del tema che si trattava prima. Sì. Allora, io non sopporto né il buonismo della socialdemocrazia di cosiddetta di sinistra. Sì, però non usiamo parole difficili. Questa è la zanzara, non è l'aria che tira. Destra leghista. L'immigrazione. Dai, la socialdemocrazia. Voglio sentire la parola socialdemocrazia in questa tradizione, non la voglio sentire, non la voglio, mi dà fastidio. L'immigrazione è voluta dal grande capitale, finché ci sarà il capitalismo ci sarà l'immigrazione selvaggia. Ecco, per i coglioni, ecco questo capitale, non la c'è un altro, senti, non vi fare il fusaro povero. Una nazione contro gli uni contro gli altri, cercando di dividerli, gli operai coscienti dovrebbero comprendere l'inevitabilità e il carattere progressivo della distruzione di tutte le barriere nazionali e organizzarsi e distruggere il capitalismo, fare la rivoluzione. Ma di che stai parlando? Ma sembri Fusaro, sembri il filosofo del nulla, Fusaro, quello che si dice di essere marxista. Non ho capito, l'immigrazione è dovuta al sistema capitalistico? Certo. L'immigrazione, allora gli immigrati chi fanno comodo? Ai padroni. Anche qui, lo sai che questa è la radio dei padroni, sì? È certo che è la radio dei padroni. Sì, allora non ti fa schifo la radio dei padroni? Certo, i padroni fanno schifo, non esistono. I padroni fanno schifo, ma fai tu schifo, farai tu, colpevoli di cosa, imbecille? Colpevoli di che? Sono colpevoli di arricchirsi sulle spalle degli altri. Vabbè, ma questo è pazzo, Parenzo. Questo è un finto fusaro, poveri, pochissimi ricchi. Questo è un finto fusaro, è un fusaro de noantri praticamente. No, io sono comunista. Tu sei comunista. Ma tu hai le pigne in testa. Qualcuno che oggi dice. Ah, io ho le pigne in testa. Tu sei comunista. Quando senti un comunista, ti incazzi. Però quando senti i fascisti come lì Mauro da Mantova. Ma c'è un approccio diverso, capito? Aspetta un attimo, ti faccio parlare con Franco, il fascista camionista. Franco? Dai. Sì, dimmi. Hai sentito questo? Dici di essere comunista? Questo Simone. Io ci darebbe fuoco come gli extracomunitari, ai comunisti. Ci darebbe. Guarda. Dai, fascistello del cazzo, stai zitto, va. Puttanella dei padroni, non sapete solo andare al governo perché ci sono i padroni che vi sponsorizzano. Ma non contate un cazzo, nella storia avete preso sempre nel culo. Berlinguer, D'Alema e tutti quanti da Mazza dei Froci, compreso pure quell'altro deficiente che era uno che andava a Froci e l'hanno reintegrato, quello è comunista come te. Ma chi è quello? Andava a trans e l'hanno reintegrato, come si chiama quel cornuto? Ma stai calco, quello era Rai 3, non era quel cornuto che stava a Rai 1 che andava a trans, come si chiama? Ma non dica stupidaggini. Che dice questo qua? Che se ne era fa 6 mesi alla bossia di Montecassino. Ma quello era con altri 6 mesi. No, ma Franco, adesso un fascista schifoso, dai, segnala il suo numero e basta. Dai, su, schifoso, schifoso. Questo non c'entra niente, dai, adesso. No, non ho capito. Bruciare vivi, ma perché bruciare vivi i comunisti? Perché? Perché fanno schifo. Simone. Fanno schifo, hanno rovinato il mondo. Parla con Simone, aspetta, parla con Simone, parla con Simone che è comunista. Ha parlato la Zecca. Quello che hanno combinato in Romania, in Ungheria, in Repubblica. Dai, torna nel manicomio, Tirla, torna nel manicomio. E mo tutto a fare buttare qua in Italia. Ma vattene a fanculo, coglione. Ma aspetta, scusa, Franco, aspetta, Franco. Me te magno le budelle a mozzichi, guarda. Perché? Cercate di alzare. Aspetta, però, scusa. Cerchiamo di alzare il livello. Allora, tu, Franco, che cosa. No, partiamo da Simone. Che cosa rimproveri a Franco, camionista fascista? Spiegami, Simone. È un camionista, quindi un lavoratore non dovrebbe essere fascista. Franco, come rispondi? Subito, a botta. Subito. Dei padroni. Capito? Sei un. Perché domandi un po' se lui prende la tredicesima, chi gliela ha data? Domandaci un po'. Prendi la tredicesima, Simone? Sì, che la prendo. Dunque, anche tu hai i padroni, dice Franco. Viviamo nel sistema capitalista. Sì, ma tu non sei messo la tredicesima, ma adesso ci ho venuto Mussolini. Ma che ma stai ma non dire che dice, ma tu la storia, cretino. Mussolini. Dice, ma che aspetta, Franco, Simone dice Mussolini. Che... Simone, aspetta un attimo. Simone, Franco dice che la tua tredicesima l'ha data Mussolini. Non credo che sia così. Sì, digli di studiare meglio che... I diritti ci sono perché c'era un forte partito comunista nel dopoguerra. Se Franco, no, che dici? Cazzo sta di... Ma vaffanculo, va. Bello, ma tu devi studiare, bello. Mamma mia. Tu devi studiare, no, io. Stavamo andando bene. Stavamo andando bene, però. Perché sei ripiombato nel dramma? Franco, stavamo andando bene. Dunque, Simone dice che la tredicesima non è stata introdotta al signor Mussolini, ma è stata introdotta... Stiamo parlando del nulla, ovviamente, no? Siamo... Mussolini era sponsorizzato dai padroni, se no non sarebbe mai andato su. Franco, ma che dici? Domandaci a tutti quei veneti e triestini e friulani che stanno alla pianura pontina, che si sono presi 30 ettari di terra più il casale che gli ha dato Mussolini. Dibattito storiografico, Franco, questo. Franco, tu che aspetta, Poletti mi scrive: non male il livello. Poletti, allora, per Poletti. Dirti allora, Franco, che cosa faresti oggi tu con gli extracomunitari? Con gli extracomunitari, che faresti oggi? Io? Brucierebbe con il gasolio, vuol dire bruciano piano piano. Ma non va bene, però, che Franco. Schifo. Questo dai, i Rom. Basta, i Rom, non so i Rom. Troppo anche per me, dice Poletti. I Rom. Troppo. Uguale, la stessa fine. Dai, che schifo che fa sta la risposta. Bruci gli extracomunitari, datti fuoco anche te, cretino. Simone? Sì, dimmi. Sì, no, anzi, Franco, mi sono sbagliato. Franco, come rispondi a Simone? Scusami. Di che cosa? Ma ti ha detto che anche tu io dovresti... voglio che tu lo segnali questo qui. Questo, ma perché questo, devo segnalare questo, Franco? Perché dice delle cose inarrivabili. Ma sì, ma chi se ne frega, va no, bene. No, schifose, inarrivabili. Ma scusa, Lorenzo, ma in Italia ci sta la libertà di parola e di stampa? No, ma io ho bocca di quello che cazzo mi no, pare. No, libertà di razzismo non esiste in Italia. È forma di questo. È stupido che non riesce a capire che questi immigrati qua sono voluti dai padroni. Mi pare, poi sì. Che le cose le faccio e non le faccio, io posso pensare. La bocca tua è sporca la tua bocca. È piena di odio e di violenza. Fai schifo. Ho capito? Ma fino a che non lo faccio, di quello che mi pare. Non puoi dire quello che ti pare. Ma non è vero. Non c'è libertà di insulto. Ma va, Simone, paese, che non dici, c'è nessuna Simone? Libertà di insulto. Simone comunista, che dice? È talmente ignorante che non riesce a capire che sono i padroni che vogliono gli immigrati. Che fanno praticamente li prendono, sì. Aumentano l'esercito industriale di riserva, sì. E questi immigrati sono purtroppo usati per comprimere i diritti e salari di noi autoctoni italiani. E gli immigrati dovrebbero avere gli stessi diritti, lo stesso stipendio e unirsi per abbattere il potere capitalista. L'immigrazione selvaggia, così come adesso, è voluto sia dalla sinistra sia dalla destra. Soprattutto dei risposta fascisti, risposta, i padroni, ho capito, senza gli immigrati non guadagnerebbero così tanto. Risposta, fanno bene. Sulla pelle risposta bruciapelo di Franco, vai. A Franco. Sì, gli devo dire. Che gli devo dire? Ma non sai niente tu. Su questo c'ha ragione, perché sti bastardi che stanno al governo e stanno a mangiare di tanti mozzichi. La grande unione finale tra il comunista e il fascista. Dovrebbe ritornarsi Benito e farebbe una bella pulizia. Beh, una passata di dittatura non è che farebbe male, eh? La Zanzara. Speranza silenziosa, grazie. Ora posso tornare a Padova, a Prato della Valle, a comprarmi l'erba in tutta tranquillità. Grazie, maggioranza silenziosa. Grazie. Naturalmente. Allora ragazzi, io direi di andare, dopo questo grande confronto di livello altissimo che ne dica il signor Poletti, direi di andare. Che ti ha scritto Poletti poi, Davide, scusa? No, no, mi ha scritto livello altissimo, poi mi ha scritto troppo anche per me, quando quel fascista che segnaleremo, spero prestissimo, alle forze dell'ordine, ha detto quella cosa sul bruciare, insomma, questa fesseria. Anche Poletti ha avuto un voltastomaco, insomma. Allora, Matteo da Modena, vai Matteo. Sì, ciao. Dimmi, no. dimmi. Ascolta, no, volevo intervenire ieri sui rom, perché avevo fatto la telefonata ieri. È uguale, perché devi precisare che hai chiamato? Dai, tranquillo, vai, un'esperienza, dimmi. Un'esperienza di vita, perché, allora, io faccio il tecnico geometra. E praticamente mi è successo che un mese fa siamo andati a fare degli scavi, solo per dirti che livello di civiltà siamo arrivati con questi rom. Era un campo praticamente di fianco a un campo rom. Mm. Allora, questo campo era praticamente pieno di escrementi umani, perché loro andavano praticamente a defecare in quel campo lì. Tra l'altro loro usavano come vatero una sedia di plastica bianca bucata, cioè una cosa schifosa, sì. E io mi chiedo ancora come siano difendibili sta gente qua. Siamo agli albori della civiltà, cioè praticamente questa gente qua dovrebbe essere rimessa nella legalità. Non ho capito, questa gente qua dovrebbe essere rimessa? Dovrebbe rispettare la legge come tutti gli altri. Ma se fossero degli italiani che facessero quella roba... No, sono italiani, la maggior parte sono italiani. Ma quello che succede, Parenzo, scusami, quello che succede dentro i campi rom mi pare abbastanza evidente. Cioè, c'è l'illegalità più totale, c'è le norme più... adesso non so che cosa ha visto Matteo. Ha visto evidentemente un enorme cagatoio, giusto Matteo? Sì, esatto. Un enorme latrina, una proprietà diversa. Una enorme latrina, cioè praticamente cagano a cielo aperto, caro Parenzo. Ma esatto. Questo che cosa significa? Vuol dire non che ho capito. Queste cose qui vanno smantellate. Ma certo, questa roba qui va smantellata. Naturalmente, nessuno vuole che la gente viva in campi. Questo è fuori di dubbio. Va fatto un grande piano di edilizia popolare. Non c'è nessun piano. Sei italiano? Sì. Sei italiano? Vanno assegnate anche se non sei le italiano. Case. Ma non va assegnato a nessuna casa pubblica. In base alla graduatoria, al reddito e quant'altro. Vengono tollerate queste cose qua. Se fossero gli italiani, non viene tollerato proprio niente. Guardi, guardi sì. Che le amministrazioni di destra e di sinistra in tutta Italia sulla questione rom, a parte rarissimi casi come Mestre quando governò Cacciari, hanno fatto pochissimo. Solo Cacciari costruì a Mestre una grande situazione in cui mise a posto il campo rom di Mestre e fece un piccolo villaggio che ancora tutt'oggi funziona. Sì, ma non si possono dare i quattrini a questa gente che già ne ha molti. Ha fatto un villaggio di Sinti, un villaggio che funziona benissimo con le casette regolari. Bisogna poi vedere se funziona o no. Riccardo, provincia di Pavia, fermo. Riccardo, provincia di Pavia, dai. Ciao Matteo. Buonasera. Dimmi Riccardo, dimmi. Eccoci. Volevo dirti intanto giù le mani dal Molise, Cruciani. Ma giù le mani dal Molise? Io ho detto semplicemente che è una regione inutile, mica vi ho detto che bisogna bombardare il Molise. È inutile, come tutte le regioni piccole, è continuiamo inutile. Continuiamo a fare province inutili. È uguale. Non è uguale. Rimuoviamo quelle, ma cazzo partiamo da quelle. No, troppo piccolo, troppa burocrazia, troppa gente. Ma quale? È la Val d'Aosta che è indipendente, quella no. Ma anche quello bisognerebbe riparlare. Ma perché? Anche di tutta l'identità di questo paese, che comunque troppi privilegi, troppi privilegi rispetto al resto ma del paese, troppi privilegi. Sai che privilegi? No, il Molise non c'entra. È una regione per fortuna dimenticata. Della Valle d'Aosta. Vabbè, Riccardo, che volevi? Volevo dirti proprio giù le mani dal Molise, pensa ad altro. Giù le mani dal Molise. Ma sì, ma lasciamola, guarda, non ti ho mai chiamato. Mai. Ho sopportato sproloqui di ogni tipo, ho riso tanto e di questo vi ringrazio. Ma no, il Molise, non lo so, mi hai toccato il cuore. Ma ho capito, sarà il molisano, ma che vuol dire? Ma nessuno vuole bombardare il Molise. Io ho detto capito, semplicemente ma tu non le regioni ma no, piccole. Ma un minimo di identità in questo paese lo vogliamo tenere. Ma che o no? Vuol dire questo con le strutture burocratiche? Non vuol dire niente, non è che scompare la parola Molise e Lucania. Io ho detto semplicemente che, prendendo l'occasione, lo spunto dal fatto che i consiglieri regionali vogliono ristabilire il vitalizio, Vergogna. Questo, ho detto il Molise come regione è inutile, come tutte le piccole regioni, come, ma non come entità, non è che voglio dividere in due l'Italia distruggendo il Molise, come entità burocratica. Fermi tutti. Buonasera, benvenuti dalla vostra parte. Ti fanno andare a scuola? No! Adesso il capo ce l'hai, scuola non ce l'hai, niente non ce l'hai. Direttore pazzesco! Nella roba pazzesco! Non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, niente non ce l'hai. Non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai, non ce l'hai. Io vendere erba, dove la prendi? Malpensa, tutto viene di là. Da Bergamo, sì! Da Bergamo, Bergamo, vai all'aeroporto. E rapporto, Linate, Bergamo, Malpensa. E vendi l'erba. Bella roba pazzesca! Sì! A vendere l'erba. Io vendere erba, io vendere cana. Non ce l'hai. Cana. Non ce l'hai. Cana. Non ce l'hai. Niente, non ce l'hai. La zanzara. David, quanto ce l'hai lungo il tuo zin? Mi fa sta male, sento dalla voce che sta male. La brocca, i piatti, la distanza. Parenzo, ma pensa a ciulare, no? Ma vai a cagare, va. Parenzo, tu da quant'è che non scopi? Allora, io non parlo per sentirlo dire, io parlo perché l'ho visto con i miei occhi. Poche settimane fa sono stato a Padova, il McDonald's che si trova di fronte alla stazione è pieno di negri, barboni, tutta questa gentaccia che dorme sui tavoli, che emana una puzza tremenda. Questa è la realtà di Padova. Non sono di Padova, non me ne frega un cazzo, ma questa è la realtà di Padova. Una città piena zeppa di negri e piena zeppa soprattutto di puzza, di tanta puzza. Questa la fotografia di Padova, non so se sia la stessa di Parenzo. Guarda, dubito. Sì che al McDonald's, al fast food davanti alla stazione ci siano cercatori di felicità e magari dei poveri che per un euro riescono a mangiare un po' di carne e formaggio, così come viene sfornato dalla multinazionale del cibo. Vedi come parlo come il professor Fusaro, dalla multinazionale del cibo, questo è un dato di fatto, quindi bisognerebbe in questo caso ringraziare il grande capitale che alle volte sfama le povere masse alla ricerca della felicità. Però ora Padova vivrà una stagione straordinaria, è tornato il sole, si è abbassata la temperatura e quindi non siamo più ai 40 gradi che nei giorni del ballottaggio, siamo tornati a una media ottima, il sole risplende, ci sono tornati i turisti in città, ad esempio, voglio dirti allora, questo. Ma non è vero, dai, sono, che cazzo sì, abiti a Roma, sono tornati i turisti, l'università è tornata a risplendere, gli antichi fasti da Galileo Galilei ad oggi, e c'è proprio un clima diverso, la gente torna a correre con la propria bicicletta, va nelle piazza della frutta, piazza delle erbe, Prato della Valle è tornata. Anche la gente sorride, se ma ti posso dire. Ma ci sono migranti dire. Che spacciano, come diceva no, l'ascoltatore di prima, no? Ci saranno magari in alcuni anfratti della società, vedi? Sì. Mi scrive l'amico Carlo Bettio, mi dice oggi ci sono 28 gradi, quindi anche una temperatura assolutamente sopportabile. Cioè torna la normalità, a dici torna alla normalità. Bravo, torna alla normalità, che esatto. Che cazzate. Allora, la televisione Sky TG24, che certo non è un covo di pericolosi fascisti, fa un sondaggio che ha questo titolo: ONG straniere, emergenza migranti, il governo valuta la chiusura dei porti alle navi delle ONG straniere. Saresti d'accordo? Cioè, stiamo parlando non del sito del quotidiano Il Giornale, non del sito del quotidiano Libero, non del sito, che ne so, di trasmissioni dalla vostra parte, eccetera, eccetera. Stiamo parlando del sito di Sky TG24, che di solito viene frequentato dalla borghesia, diciamo, no? Chiamiamo così, da chi si può permettere. Dagli abbonati. Dagli abbonati, che sono più o meno di una media alta borghesia. Ma comunque, lasciamo perdere questo, che non è molto importante. E, ripeto, domanda: emergenza migranti, il governo valuta la chiusura dei porti delle navi delle ONG straniere, saresti d'accordo? No 5%, sì 95%. 95%. A avanti così, l'Italia così vera. Cosa? L'Italia vera. Tu hai chiamato tutto il giorno. Oggi eri irreperibile tutto il giorno. Ma non è vero. Abbiamo scoperto perché. Perché hai messo al chiodo i collaboratori della Zanzara. Hai dato ordine tu da Radio Video di chiamare e alterare i risultati di quel sondaggio. Sono ore che ti chiamo da stamattina. L'Italia è per tu la chiusura dei porti. Quel no, purtroppo ero in bagno a cagare. Ho passato una giornata drammatica. Ma ho passato una giornata drammatica. Come mai? Ho passato una giornata in preda agli spasmi del. Ma cosa hai mangiato, tesoro? Non lo so, sarà stato il freddo. Mi dicono che è stato l'aereo tornando da Roma, può darsi certo. L'aria condizionata, eccetera. Certo. Comunque, ragazzi, ma come fai? Imodium, hai preso qualcosa? Imodium o altri eterogermina, queste cose qua. Ragazzi, ho cagato acqua all'ira di Dio, una mia, a spruzzo. Ma che porcheria, che porcheria, però. È roba incredibile. Mamma mia. Ho dovuto cambiare due o tre mutande perché ma che roba inelegante che è questa malattia tua. Vi confesso. Che inelegante. Ieri sera a un certo punto, non qua, dopo me la sono fatta quasi sotto. Ho dovuto togliere le mutande sporche di merda. Okay, mamma mia. Ragazzi, che racconto è? Mamma mia. Intanto, a proposito di Instagram, io non ho mai avuto problemi di stomaco. Perché tanto posso dirti una cosa? Trovo inelegante questa cosa che hai avuto, questa malattia. La trovo proprio una malattia inelegante. Che cazzo vuol dire? Posso dirti? Certo, non è elegante. Cagare a spruzzo, cagare acqua, no, è problema, appunto, il famoso cagotto. Ho capito. Non è elegante. Tu, siccome sei elegante, non l'hai mai avuto. Mai. Ma dai, su. Sei inelegante anche in questo. Però anche oggi, nella malattia. Nonostante. Io ho la febbre alle volte, certamente, sicuro. Ma non queste malattie. Il vomito, però anche quello. Oggi, molto raramente, ripeto, ma lo trovo inelegante anche il vomito. Ripeto, oggi, nonostante queste. Una situazione difficile, sono un po' febbricitante. Ho lo stomaco in subbuglio. Va un po' meglio perché non ho ancora cagato. Nonostante questo, sono qui al pezzo! Sono qui, Maidomo! Stringere i denti e andare avanti! Allora, leggo sul quotidiano La Stampa, sito del quotidiano La Stampa. Picchiava e stuprava le sorelline per educarle all'Islam. Condannato a 8 anni di carcere, meno male. A processo percosse e abusi, anche sessuali, nei confronti delle due sorelline. Un giovane figlio di nordafricani è stato condannato dal tribunale per i minorenni di Bologna a 8 anni. Il padre aveva affidato le due sorelline al fratello, allora minorenne, per farle conformare al modello islamico, il modello tradizionale naturalmente dell'Islam e della famiglia, per preservarle dalla cultura occidentale. Il fratello però ha esercitato sulle bambine vessazioni, maltrattamenti, violenza sessuale, eccetera, eccetera. A proposito di Islam, la convertita che parlava con Fatima, anzi la convertita che parlava con Facci, si chiama Fatima. La convertita che parlava con Facci prima, quando Facci ha detto che il Corano è un libro di merda. Chiamiamola convertita. Pronto? Fatima? Sì? Salve, qui Radio 24, salve, ciao. Salve. Ciao Fatima. No, ho sentito ieri, ho visto ieri, anzi, la trasmissione quella con Facci, no? Sì. Ecco, che ha detto il Corano è un libro di merda, mi sembra, no? Sì. C'eri tu di fronte? Sì. C'è una cosa molto offensiva. Io sono Parenzo, cara Fatima, al di là di tutto, insomma, mi dispiace molto per questa cosa perché la ritengo offensiva. Ecco, ma cosa vuoi fare te adesso dopo che lui ha detto questa cosa? Ma chi sei? No, chiamiamo da Radio 24. Buonasera. Ah, buonasera. Buonasera. È la radio, cara, si chiama La Zanzara. Sì, adesso ho capito. Ciao, non c'è in Qatar, non c'è neanche in Arabia Saudita. Qui in Italia ancora per ora, grazie a Confindustria. Peccato che non c'è. È in Qatar, è lì, sai, però questo tipo di trasmissioni in Qatar e Arabia Saudita sono un po' difficili da sostenere, però andiamo avanti. Benissimo. Scusami Fatima, ma che vuoi fare adesso dopo quello che ha detto Facci? Quello che farò sicuramente non lo renderò pubblico, se lo farò. Ma perché? Ti sei sentito offesa? Ma guarda, io credo che tutti quanti i musulmani si siano sentiti offesi. Perché? Che ha detto di così strano? Dici? Ha detto che non gli piace, non gli piace quel libro, punto. Non è che ha detto che vanno ammazzati tutti gli islamici. No, lui, se avete sentito bene la trasmissione, avete capito benissimo che cosa ha detto. Me l'hai detto anche tu un attimo fa, per cui non serve che io lo ripeta. No, ha detto il Corano è un libro di merda, ha detto che ha spiegato anche il perché, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè ragazzi, sapete che vi dico? No, ma questo qua, secondo te, è un incitamento all'odio? Guarda, questa è solamente provocazione. Sì. Ormai sono tutte provocazioni, capito? Sì. Cioè lui voleva solo provocare. E non lo so che cosa pensa di fare, ma se lui odia l'Islam è un problema suo, cioè io non so addirittura cosa dire. Però di sicuro io non rispondo No, perché sì, siccome tu hai detto che doveva essere radiato. Beh, guarda, è molto poco. Comunque, ragazzi. Cioè, poco che vuol dire? Scusami, molto poco. È poco, sono stata molto chiara io ieri sera. No, quello appunto che ho pensato l'ho detto, e per cui non serve che lo ripeto. No, ma te lo stiamo chiedendo perché non è, perché sia chiaro. Cioè, secondo te va cacciato, cioè non deve più scrivere? Ragazzi, mi astengo dalla facoltà di non rispondere. Sì, per carità. Tu hai detto: se potessi me ne andrei, mi vergogno di essere italiana. Ecco, questo sia interessante. Beh, perché... Ma questa è una frase che ormai dicono una buona parte degli italiani. Ma perché ti vergogni di essere italiana? Scusa, tu sei italiana, tra l'altro. Ma ci mancherebbe. Certo. Ma ci mancherebbe. Non ho capito, perché ti vergogni? Perché ci sono tanti perché. No, ma uno dice mi vergogno di essere italiana. Ma queste domande qua perché non me le fai faccia a faccia? Ma te le sto facendo, e questa è la radio, faccia a faccia, è così. Non è così, perché mi piace guardarlo in faccia alle persone. Ma io ti posso guardare in faccia tranquillamente, non ho nessun problema a guardarti in faccia. Ti sto chiedendo, siccome tu ma hai detto appunto mi ragazzi, vergogno di essere italiana, ma perché ti vergogni? Questa è una se cosa vogliamo che... se vogliamo fare un dibattito ma quello lo stiamo facendo, ma noi siamo, ma siccome la ma radio, ma non mi piace per radio, non mi piace quello che ho detto. Comunque sì, ma perché ti vergogni? Detto, questo non ho capito, perché non ti vergogni? Rinnego assolutamente no nulla. Ma perché ti vergogni? Questo non ho capito bene. Perché sono troppi? Vuoi che ti mando la lista? No, dammene due, uno due così. No, ti mando la lista. No, dammene due semplicemente. Ragazzi, buonasera. Ma qual è il problema? Non ho capito. Non capisco perché hai detto una cosa, poi non. I wanna now, I wanna know. I got to rock, I need to roll. If you can't hang with the speed I go, I'm gonna. Mo vediamo se ha attaccato, Non si capisce perché. Cioè, vuole andare via dall'Italia? Vuole andare via dall'Italia? Mi vergogno di essere italiana. Vabbè, mi spieghi il perché? Mi vergogno di essere italiana perché è una società che le permette di convertirsi, di predicare l'Islam, di essere islamica, di girare col velo. Qual è il problema? Andare, nessuno la trattiene. Ma diciamo no, così, ma assolutamente, dai. Ma non riesco a capire perché. Vabbè, si vergogna. Ma è legittimo che un'italiana dica me ne voglio andare dall'Italia. Ma sì, bene. Sì. È un'italiana, non è... Io non direi che è un'islamica, direi un'italiana. Che è un'italiana anche un po' folle, se possiamo dirla tutta, però. Allora ragazzi, leggo oggi su un quotidiano una frase riportata sul profilo Facebook del signor Roberto Saviano. Io non so se l'hai letta anche tu, è una cosa abbastanza incredibile. Mi piace molto abbastanza Saviano, però posso dirti questo che sì, mi piace ma molto. Benissimo, a te piace Saviano, per me è il re molto delle banalità, ma va bene, cioè, è il re delle banalità, a te piace, a me no, cioè, non è che non mi piace, mi è indifferente, è diversa la cosa. Piace, poi rispetto alla sua storia, mi riconosco molto anche sua... in questo impegno civile di scrittore minacciato dalla criminalità. Ma sì, va bene, ma perché da devi parlare per frasi fatte? Da anni vive in una situazione ma va terribile, bene, ma non va può benissimo. Andare al cinema, non può andare a teatro. Ma chi dice il contrario? Insomma, chi dice il contrario? Ma assolutamente no. Per me, qua, io giudico una persona per quello che dice. Per sicuramente quello che, a mio parere, è il re delle banalità. Questo è quello che penso io. Ma lasciamo perdere. Ma la cosa mi è confermata. In questo caso non è una banalità, è proprio una follia, a meno che non scherzasse. Scrive Saviano: sulla spiaggia giocavamo a calcio balilla e chi perdeva per punizione veniva costretto a mangiare il fior di fragola, il gelato delle femmine. Il lemonissimo di contro, te li ricordi questi qua, no? Il fior come di no? Fragola e il lemonissimo, certo. Sono straordinari. Il fior di fragola era praticamente buonissimo, pieno anni 80. Era rosso, anzi rosa, e con una il striscia cuore bianco. Esatto, bravo, con una striscia di panna. Con una striscia bianca nella sì. parte bassa del gelato, mentre il lemonissimo era bianco con una striscia gialla e dentro un po' di limone, no? Giusto? Allora, bravo. Dicevamo, il fior di fragola è il gelato delle femmine, il lemonissimo di contro era il gelato dei maschi. Che solo chi vinceva poteva permettersi. Io questa distinzione non ma me nemmeno ricordo, io mai, bambino, mai, però può mai, essere che mai, sei. Mai. Però, così sai. Leccare il ghiacciolo rosa era da ricchioni. Morale. L'omofobia si sedimenta da quando sei bambino. Gergo, punizioni, leggende. Questo è vero. No, cosa è vero? Adesso sulla cosa, del gelato, non si sedimenta non lo so. Un cazzo. Primo è sbagliata la cosa, si sedimenta da quando sei bambino. Una di quelle frasi fatte, però no? È vero, no? L'omofobia no, è vero. Nasce da quando sei questo piccolo. Poi se uno deve andare a spiegarlo non lo capisce. Ma comunque lasciamo, non si capisce bene che cosa vuole dire. Ma la seconda cosa, ma chi ha mai fatto distinzioni tra il lemonissimo e il fior di fragola? Quello il gelato delle femmine, dei ricchioni, quell'altro il gelato dei maschi, passa tutto nella mente, forse in quei 10 persone che frequentava Saviano. Cioè, io, le persone che frequentavano non hanno mai fatto questo tipo di distinzione. Mai. No, quello mai, neanche io, però. Dai, su, ragazzi, è veramente patetico, dai. Parenzo. Sono Parenzo. Quali sono le soddisfazioni che le dà questo animale? E che una bella bestia. Pagato dal Mossad, pagato dal Mossad. E che una bella bestia. Pagato dal Mossad, pagato dal Mossad. One of these days these boots are gonna walk all over you. Sono Parenzo. Vabbè, c'è la soddisfazione dell'animale. Cosa sta dicendo quel mostro? OneExpress.it. OneExpress. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta Da Zanzara. Vai tu, se mi parla al telefono che a Zanzara da fa l'8-0024-0024. Oppure se mi manda non faccio i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393-7171-701. Allora, in collegamento sta viaggiando verso la Valtellina il professor Vittorio Sgherbi. Bene, eccoci qui, bene, professor. Qua. Eccoci bene. Qui. Senti, lo sai l'ultima di Saviano qual è, caro Vittorio? Dimmi. Allora, ha detto che leccare il gelato rosa, cioè te lo ricordi il gelato, il fior di fragola, sì? Sì, ottimo. Il fior di fragola, secondo lui. Il fior di fragola con la panna dentro. Bravo, benissimo. Secondo lui, nel Casertano, non so dove, leccare questo gelato è una roba da ricchioni. Cioè, è incredibile questa cosa. Mentre al contrario, leccare il limonissimo, che è quello invece col limone dentro, no? Bianco, eccetera, è una roba da. Vabbè, non so se ha detto ricchioni, però ammesso che questo colorito termine non sia offensivo, sì. Non capisco perché si è trattato come un cane il povero De Luca che ha detto chiattona a una chiattona, cioè ricchione e chiattona non si dicono perché si tratta di condizioni che rappresentano un'umanità che ha un disagio o che ha comunque una condizione sessuale che è diversa da quella di Saviano, ma ricchione puoi dire gay. Sì, ma lui lo diceva per riprodurre quello che, cioè, no, per raccontare quello che gli dicevano o quello che dicevano lì nella zona. Però mi sembra, siccome lui dice, ecco, l'omofobia si radica sin da piccoli utilizzando questo. Lo diceva difendendo il povero ricchione. Non c'è niente, io non sono ricchione e ho sicuramente scopato un numero inconfrontabile con le poche ragazze che purtroppo lui, controllato dalla scorta, non può neanche vedere. Beh, questo lo sai che non è vero? Lo sai che non è vero? Mi dicono che sia un grande trombatore. E allora non deve lamentarsi della scorta? Dice che non può vivere come una persona normale perché ha la scorta. Vabbè, ma la scorta sarà qualche cosa, ci sarà qualche impedimento. Appunto, è utilissima, no, per gli ingorghi di traffico come il mio, comodissima. Metti la sirena, cioè è comodissima. Non fai 3 ore di viaggio con una coda infinita. Cioè, adesso, siccome tu hai la coda, se stai in coda. Per dire che è un fatto positivo per lui e non è certo vittima della scorta. Se poi scopa tranquillamente, è la prova. Cosa può fare un uomo di meglio che scopare? Allora, se la scorta non te lo impedisce, cosa ti lamenti? Di non vivere la vita normale, che non puoi andare al cinema, ti vedi film a casa tua, sono stronzate. Comunque, dicendo questa cosa, dice una balla, perché io che ne ho vista comunque più di lui, sì, per mille ragioni, ho sempre mangiato tranquillamente gelato alla fragola, che non ha niente a che fare con la ricchione. Ma assolutamente nulla. Mi piace nulla. E basta. È una puttana. Che non è, come diresti tu, lo infiliamo in una figa per raffreddarla. Quello potrebbe essere interessante. È andata via la linea qui a Roma, evidentemente. No, cioè, Parenzo, quando si affrontano questi argomenti è sempre molto restio. No, lui è un uomo educato. La cosa migliore di Parenzo è che è educato. Però scusami, Vittorio, la realtà è molto semplice. No, dopodiché anche io, a te piace guardare, nel Vittorio? Mio privato posso praticare tutte queste cose piace che vuoi. Guardare, non ti posso dire quello che ho visto nella mia vita, però mi piace guardare, come piace a ogni maschio, sì, quella che è una tendenza dell'omosessualità che prova che è giusto rispettarla, quella femminile. Ah, cioè, bene, sì, questo è buono. Beh, sì. Questo è fondamentale, ma anche nella pittura da sempre. Cioè, il rapporto fra due donne non è omosessualità e neanche trasgressione. Che è cos'è? Una continuazione, è un piacere di cui l'uomo diventa comunque. Cioè, tutte le donne, tu dici, non sono donne se non provano un rapporto lesbico. No, questo non l'ho detto. Dico che mentre l'omosessualità nei maschi può essere 20, 30, 10%, delle donne almeno l'80%. Addirittura, dici. È bisessualità, è disponibilità, perché non essendoci la penetrazione, è carezza, è dolcezza. È vero, hai ragione, la cosa fondamentale è la penetrazione. Siccome non c'è quest'atto, c'è diciamo l'atto così drammatico della penetrazione. No, no. Sì, un passaggio da una condizione attiva a una passiva. E sì, nessuna delle due è attiva o passiva. A te la penetrazione tra due uomini ti fa un po' schifo, diciamo la verità. Diciamo... No, non mi fa schifo, ma la trovo una scelta, mentre in un altro caso non c'è scelta. No, ma la trovi anche una cosa come la professoressa De Mario, una cosa drammatica, voi, diciamo. Come anche Parenzo sa, io sono per la disciplina scientifica della dottoressa De Mari, sì, che dice che il culo è fatto per andar fuori, non per prendere dentro, sì, quindi fa delle valutazioni. Cosa c'è qua? Che è un treno, una cosa valutazioni incredibile. Molto discusse da Parenzo, però che hanno una loro logica. Sì. Altrimenti non diresti che uno che gode, non gode, trae danno da una cosa è, sì, stato inculato. Sì. Come diresti? Come dire, quando Parenzo è stato fregato, diciamo, invece... Sì. Dici inculato, e quando dici, cioè, uno senza, sì, infelice, dici sfigato, cioè la figa è bene e il culo è male. Beh, allora, nella lingua italiana, se cacciano Parenzo dalla Radio 24 ottenendo Cruciani, sì, lui è inculato. Diciamo, tecnicamente, cioè, dunque, mi stai dicendo che secondo te comunque la lingua parla, però hai visto quello straordinario striscione che è stato fatto a Costa, qual è, no? Beh, quello, viva la figa, quello durante il Gay Pride a Latina, e i gay si sono incazzati, hanno chiamato la polizia che poi è andata a rimuovere quello striscione, viva la figa. Ma quella era una logica omosessuale, non lesbica, per due lesbiche viva la figa. Anzi, esatto, la figa. Ma questo qua, ieri da noi è venuto qua, è stata una grande cosa di libertà. La Cirinna, la signora Cirinna, no, vabbè, lì siamo fuori, ha detto che bisogna rieducarlo questo qua, perché ha fatto una cosa macista, che scrivere viva la figa è una cosa macista. Dire, l'ha fatto una femmina, è una cosa di una femmina, come il femminicidio, altra invenzione, lo stalking. Cioè lo stalker. Beh, lo stalking, sì, lo stalking esiste. Io, per esempio, sono la massima vittima di stalkeraggio, ma non denuncerai mai nessuno. Cioè, cioè, sono persone che ti stalkerizzano tutto no, il tempo. Ma donne continuamente, da anni. Però io la prendo come una forma di riconoscimento. Una donna che riceve il fiore ogni giorno non può dirsi stalkerata. Eppure, beh, per esempio, hai letto la signora Comi, no? Che ha fatto? Ha denunciato di essere stata stalkerata da uno che addirittura la voleva ingravidare, l'aspettava sotto casa. Per te è tutta una cazzata, non ci dovrebbe essere. No, vuol dire che sono dei reati tutti legati a un genere, cioè. Il femminicidio, se una donna uccide una donna è femminicidio o è omicidio? Se io vengo toccato, cioè vado sul tram e tocco il culo a una donna, cosa che non faccio, io sono uno stalker. Sì, certo, questo sicuro. Io dico carina, simpatica, non mi fa nessun effetto. Sì, perché si presuppone che, come dire, la donna sia la parte debole, quindi subisca l'aggressione rispetto al fatto dell'uomo, che invece a cui può far piacere. Però tu hai violenza, ma se è semplicemente contatto, sì, la toccata di culo a me di una donna, non mi fa denunciare nessuno. Quante persone, persone la famosa mano morta che spesso viene, ma non esiste più ormai. Beh, come non esiste più? Ma quante persone ti rompono i coglioni a te? Di donne che stalker. Mi tormentano, se ne sono almeno 30 da 15 anni. 30 che ti inseguono, sì, continuamente. Guarda il mio telefono, continuamente telefonate, rotture di coglioni, SMS, quello su cui potresti costruire una causa per stalkeraggio senza fine. Mai denunciata. Veramente una. La trovo come una lusinga. Sai cosa faccio? Metto per quelle che non voglio sentire no davanti. Sì. No, ma di queste 30 no. Quante ne hai scopate? La metà? Neanche una. Ah, neanche una? O una volta, insomma. Senti, Facci ha detto che l'Islam gli fa schifo e che il Corano è un libro di merda. Sì, lo hanno sospeso per 2 mesi, eccetera, eccetera. Ma ha detto anche, ha aggiunto ieri, che il Corano è un libro di merda. Tutti i libri delle religioni sono pieni di cose che possono essere interpretate. Sì, però uno ha il diritto col libro di merda, non è che ha detto odio l'Islam. Che dire un libro di merda ha il diritto di dirlo, cioè no, perché è un libro comunque, il libro l'ha fatto un uomo, non Dio, cioè la Bibbia non l'ha fatta Dio, quindi tu puoi dire che un libro di Hemingway fa cagare, puoi dire che la Bibbia fa cagare, anche se rispetto alla tua religione ti senti in qualche modo come chi bestemmia, ma se lo dico di un altro libro che non è della mia religione, la bestemmia non c'è. È lecito dire che il Corano faccia schifo, no? Ma perché la bestemmia, perché la bestemmia è l'ultimo tabù secondo te? Perché si presume che ci sia un Dio di quello che è vicino a te che tu devi rispettare. Cioè tu sei in una comunità cristiana in cui quelli che ci ascoltano possono credere in Dio e tu offendi il loro Dio. Certo che se dici che schifo Buddha, nessuno non ti sente. Oppure anche se dici porco Buddha, nessuno dice nulla. Ma è una valenza diversa, no? Provi a dire quella cosa lì, ti cacciano da Radio 24. Prova a dire porco, non Buddha. No, ma assolutamente sì. Beh, certo, è giusto, è evidente. Sì, assolutamente. Ma non è come dire... La frase più bella è quella di Lecce che dice tutti gli dei furono immortali. nel senso che gli dèi a un certo punto scadono, finché un dio è vivo non lo puoi bestemmiare, a dire porco Apollo, porco Giove, porca Minerva, chi ti dice niente, perché parli di un dio irrelato, quindi stai offendendo invece il dio di qualcuno che ci ascolta adesso e ci crede. Senti, a proposito, no, però, ma invece a me dispiace per Eva, ad esempio, perché tutte le volte Eva... No, porca Eva c'è. Quello, ma sì, ma quello mi dispiace, perché ad esempio tutta questa cattiveria, acrimonia nei confronti... Bisogna dire porco il serpente, no? Il serpente è un porco, ma perché la Eva, poveretta? Questo è veramente incredibile. Senti, è cascata quella, ma non hai detto nulla sulla vicenda Sciarelli Woodcock? No, ho fatto un articolo oggi, bellissimo, e l'ho mandato anche al mio amico Roberto, che sono amico. Io per esempio ho una teoria su Rina che mi piacerà, cioè? E che ho espresso, che se uno sta 25 anni sotto 41 bis, sì, con la luce accesa tutti i giorni, sì, alla fine è un po' stremato, il suo potere è logorato. Se ha poi 85 anni è ancora più logorato. Se dici io non lo faccio uscire perché basta uno sguardo, come dice Roberto, come dice non so Di Matteo, gli attribuisci un potere, devi dire non vale un cazzo, sei un povero vecchio di merda, vai pure fuori che non conti più nulla. Questo è l'unico modo per avere potere, per dire lo Stato ha vinto. Se invece dici che basta lo sguardo, allora gli dai un potere per cui lui riesce a comunicare. Il potere però ce l'ha. Non ce l'ha. Ma più, che ne sai, Morina non c'ha più potere. Lo dico io. Il nesso, il fatto che lui dica che vuole uccidere Di Matteo, non vuol dire che c'è qualcuno che lo faccia su suo. Ma no, ho capito, però è meglio tenerlo in carcere che... No, ma voglio dire, è meglio tenerlo in carcere, l'aveva anche ucciso subito, meglio ucciderlo subito. Ma non sto dicendo che è una questione umanitaria o meno liberale. No, ma ho capito, tu stai dicendo che se lo Stato dice che lui con una parola può decidere ancora qualcosa... Vuol dire che gli dà potere, invece devi dire un corso un povero vecchietto di merda, vaffanculo. Senti, ma Sciarelli Woodcock invece non ho capito. No, allora, dico questa cosa perché nel mio dialogo con Roberti io ho accusato molti momenti dei comportamenti di magistrati che hanno rovinato la vita a Calogero Mannino, vabbè. E allora lui mi risponde, allora lui dice non penserai mica che la violazione del segreto istruttorio sia soltanto dei magistrati, sarà dei giornalisti. Questa volta, ma cioè, tu ci credi? Ma ci credi a questa cosa che lei ha? Assolutamente sì, e sai che ti dico anche che quando il povero Tiziano Renzi sembrava in qualche modo scagionato dall'errore dell'intercettazione voluta da Woodcock, Travaglio continuava a dire che si aggravava la sua posizione, per forza, perché era il complice di Woodcock, cioè difendeva Woodcock che era la sua fonte di informazioni. Cioè, secondo te, Sciarelli che c'entra? La compagna di Woodcock e basta? È stata compagna, o sarà ancora compagna, probabilmente lui, per non dare la notizia direttamente a Travaglio, a quello del fatto, ha fatto la sponda con la Sciarelli ed è finita a Travaglio, ma Travaglio è troppo scopertamente. Ho capito, ma con tante fughe di segreti istruttori che ci sono state in Italia, secondo te? Guarda che non è mica il CSM che lo indaga, che sarebbe una cosa interna. No, la magistratura. È Pignatone, l'inventore di Mafia Capitale, quindi un grande. Tu in realtà non vedi l'ora che Woodcock venga destituito da tutte le sue funzioni? Io ho detto che questo è l'antefatto della sua carriera, come l'altro incapace totale che ha sbagliato tutto. I suoi colleghi sanno che è incapace De Magistris. Sì. Entrerà in politica, entrerà. Sicuro. Woodcock diventa un prossimo. Senti, ma i piedi, l'ultima cosa, l'ultima adesso pennellata. Sarebbe molto divertente se Woodcock venisse difeso da Ingroia, che da PM è diventato. Ultima avvocato. Cosa, Vittorio, stupendo, i piedi delle donne. Dimmi una cosa sui piedi delle donne. Posso dirti che l'altra sera una donna mi ha guardato e ha detto. Sì. Tu hai i piedi che sembrano sculture di Canova, dei miei. Una volta ho visto la sua fidanzata storica, la fidanzata storica di Vittorio, che gli massaggiava i piedi. Non ho nessun feticismo per i piedi. Ah no, i piedi delle donne non te ne frega un cazzo. No, niente, nulla. Cos'è la donna la cosa delle donne che ti piace di più, che ti ha fatto sempre arrapare di più? Che cos'è? La cosa delle donne. Nulla. Dipende. Sai. Il dettaglio che ti ha fatto sempre la faccia da troia, la cosa che la faccia da troia. Giusto per parlare. Ciao, Vittorio. Per allegorie. Grazie. Ma niente paragone, niente. Non avete più paragone. Aspetta, ti richiamiamo tra due minuti. Aspetta. E adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento la zanzara. Allora, gran conclusione, grande finale con Vittorio Sgarbi in collegamento praticamente dalla Valtellina, non so da dove. Caro Vittorio, chiudono vari programmi televisivi, chissà per quali ragioni, alcuni protestano per il regime o addirittura per una censura. Prima hanno chiuso Giletti, poi hanno chiuso adesso il programma di Paragone sulla 7, televisione in cui lavora anche Parenzo. Prima ancora avevano chiuso. Dato ininfluente. Beh, no, dato assolutamente ininfluente. Sì, assolutamente. Ininfluente. Hai messo anche la tua manina, no, hai, ecco, c'è il tuo zampino dietro. Ma qui. Ma no, sto scherzando, dai. Mentre Belpietro era stato chiuso prima per evidenti ragioni politiche, diciamo la verità. Non volevano la caciara prima delle elezioni in un anno elettorale che, secondo alcuni personaggi, potrebbe favorire Salvini e la Meloni. Questa è un po', diciamo, quello che si sente. Che dici tu? All'epoca mia, che sono il primo epurato dalla televisione per i quotidiani, le ragioni erano soltanto di danaro, cioè le cause. Le cause, sì, come no. Certo. Io fui vittima di quello, però non ho protestato, poi è finita lì. Nel caso degli altri mi pare che sia una questione di ascolti, cioè Paragone non ha mai superato i 2,5-3. No, la media è un po' superiore, comunque. Vabbè. Non mi sembra, Telese ha fatto pena, quindi poveretto è stato epurato da se stesso. No, ma non è vero, adesso è andato a fare in culo la Costa Magna, ma lunedì siamo insieme in onda. Dell'amico Parenzo che supera persino la Merlino, si permette su. No, ma un caso, eleganza, è diventato un personaggio gentile, ben educata, per bene. Poi quell'altro, vabbè, Giletti con quell'aria intimidatoria che aveva, ecco, ma Giletti, Giletti dice che sostanzialmente dice, lui non dice niente in realtà, si dice che fosse un programma troppo anticasta. Tu che dici? No, c'era qualcosa di grillino molto forte, ma può darsi che sia la ragione, ma è anche giusto che a quell'ora della domenica non dovrebbe sentirsi uno che si mette prendendo quattro volte. Io gli ho risposto malamente dicendo che il mio vitalizio lo davo per restauri di opere d'arte dalla mia fondazione in avanti. Sì, lui sì. Guadagna molto di più del vitalizio. Ho capito, non è che se li guadagna lui, ma che senso ha? Se ti metti a parlare, capisco un disperato che se la prende con uno, ma uno che guadagna un sacco di soldi si mette a fare la campagna contro il vitalizio. Sì, lui ha fatto una grande campagna contro i vitalizi, tra cui anche il tuo. E dunque, tu. No, ma non dico che lui non dovesse farla, dico che non mi sembra l'argomento su cui uno costruisce. Si può parlare di tante meraviglie, una volta mi c'era puntata con lui sulla Sicilia. Non sei disperato, mi sembra. Non sei disperato per la cacciata di Giletti, mi sembra. No, anche perché farà altro e speriamo che lo faccia nell'ambito di una misura di uno che non deve prendere parte. C'è un conduttore, non prende parte. Beh, insomma, dai, adesso perché no? No, tu sei un conduttore sublime, che hai fatto diventare l'orrore, lo schifo, la merda, culo. Ma lui sta a Rai 1 ed è un conduttore. Tu dici su Rai 1 non può fare la campagna contro i vitalizi, questo dici? Deve chiamare uno che la faccia. Allora fai come dire, un dialogo in cui tu sei quello che fa il mediatore. Come fa la Gruber? La Gruber perché va sempre bene? Perché una che, cioè tu dici non può fare le campagne contro Napoli, contro il vitalizio, contro... No. Deve chiamare qualcuno che lo fa e lui fa quello che mette in che fa lui da parte. Lui non può fare il PM. Lui è il giudice, ha il PM e l'avvocato. Comunque, cioè lui invece faceva il PM, diciamo, faceva quello che attaccava la casta. Troppo diciamo, facile. Troppo facile. Dico, non so se sia questo, ma mi sembra che sia giusto. Sì, è questo sostanzialmente. È questo. Quanto a Fazio, l'altro argomento che avevo detto, sì. Io trovo che sono naturalmente invidiosissimo e quindi non posso parlare perché schiumo l'invidia. Io prima invidiavo solo Bonolis, adesso anche Fazio. Se io che valgo 500 volte Bonolis e 496 Fazio, non ho mai preso quelle cifre, per cui sono disperato per la mia per il mio fallimento e lo ammiro per il suo genio. Dunque, secondo te non c'è nessuna cosa, quello che ha detto qui Gasparri, gente non l'aspetterà per strada. È vero che ha parlato di Rai politicizzate, dopo con la stessa Rai ha preso dei soldi, questo è un po' un'ipocrisia. Perché lì il problema, io ho difeso allora la posizione della Macchioni. Qualunque persona che aumenti lo share o che faccia vincere una squadra di calcio, esattamente come nel calcio, cioè il valore proporzionato al risultato che porti. Esatto. Se è vero che lui porta un risultato e deve condividere il profitto. No? Esatto. Invece di dire ti do 11 milioni, ti do. Cioè, tu ti do 240 mila. Ogni punto che fai in più dei quattro divido ma con quello te. Lo è, se invece ma questo quello... è il buon senso, ha ragione Vittorio, ad esempio nel calcio questo discorso pauperista e moralista non c'è, non si fa. Perché gli ultras, che sono la maggior parte degli straccioni, diciamolo tranquillamente, ma gli ultras dicono anzi pagate, dicono al padrone lì, al proprietario della squadra, tira fuori i danè e pagali tanto sti calciatori, cioè nessuno lì si stupisce. Vabbè. Cioè si stupisce quando il giocatore non funziona, per cui non ho capito, vale Vittorio, faccio il libero per Salone. Io mi ha detto uno che Salone è talmente amato che della gente va quattro volte a vedere un film per fargli guadagnare di più. perché sono contento. Ma io che non guadagni. Ho capito, secondo certo. te dunque è giusto lo stipendio a Fazio, che è una cosa molto... No, non lo so, io lo misurerei, stabilendo che il parametro esiste, vale per chi fa come, non so, il nostro amico Paragone, 2%, 2,5%, 3%. Da 3 in su, tu dividi i profitti per ogni punto che ti porta del vantaggio di... Vabbè, di, ma questo non l'hanno fatto, gli hanno dato quasi 2 milioni all'anno. Certo, e quello fa schifo, non lo vedo, mi viene un po'... So, io soffro fisicamente. Cioè, soffri fisicamente, cioè ti viene il volta stomaco. Io dovevo avere 25 milioni di euro. Lui ne aveva 12. Ma tu sei sgarbi, è diverso, non sei paraculo, non, so. Non lisci il pelo. Guarda, diventerei paraculo, posso diventare come lui, morbido, gentile, posso diventare come Frizzi, se mi danno anche 9 solo milioni di euro divento come Frizzi. Ma che ci fai con i soldi, non te ne frega niente. Compro un po' di quadri così. Appunto, tanto, campi, poi invito te, ma tu campi dici, sempre allo stesso modo tu, tanto, non è che cambi, so, che cambi modo. Quando ho visto quei soldi ho sofferto. Ma quanti debiti hai? Mi sa che c'è... Non lo so, guarda, se avessi i denari di Fazio sarei inattivo, perché io la mia ambizione sarebbe spendere, diciamo, 4 milioni di euro all'anno di quadri. Di quadri. Lui... Il resto pagare le Equitalia. Paga Equitalia, basta. Lui credo che arriverà a prendere 3 milioni, no? Capisci? 3 milioni. Questi quanti meravigliosi dipinti. Lorenzo Monaco, Tiepolo, delle cose meravigliose. Ma che ce fai? Poi te li sbatti in testa, vabbè. Ciao Vittorio, ciao, soffro, presto. Soffro. A voi due un giorno sentite uno che mi andate e dice: ma tu guadagnerai anche 3-4 mila euro. Dico: sì, col cavolo, che quei due stronzi, perlomeno Luciani, guadagnano 3-4 mila euro. Anche voi invidio io. Invidio anche voi. 3-4 mila, diciamo così. Voglio sapere cosa guadagnate. Io saluti. No, Invidio anche voi. Ormai. Ma io l'ho già detto, tra i 200 250 all'anno. Allora, normale, che cazzo invidi? Guadagni più te, guadagni sì, più. Sì, ciao, sì, ciao. Lavorare come un matto che andare a Bormio, ciao. Comunque cosa. Viva ciao. La figa. Viva la figa sempre, ciao, ciao. Ciao, ciao. È un messaggio per Parenzo, sono al ristorante, faccio parte della maggioranza silenziosa e mi hanno servito una bottiglia di Ferrarelle in plastica, sono con la mia compagna, non è possibile vivere così, ci vogliono tovaglie di Fiandra, posate d'argento e brocche in vetro. Siamo al top. Io mi stupisco che questi personaggi sedicenti, che sono in piedi perché dovrei fare una pipì pazzesca, però siccome la televisione finisce ai 53, sì. Sono in piedi, sono, sai, come quelli che devono fare la pipì e che camminano. Bravo, guarda, bravo, sì, che si trattengono, che si trattengono. Lo vedi se vi collegate. Sta zitto, con... io ieri lo sai che ho fatto. Ma, sono in io piedi. Ieri che ho fatto, che ho avuto il cagotto, non sai che ho fatto. Mi sono dovuto trattenere a un certo punto, incrociando le gambe, perché altrimenti sprofondavo nella merda. Posso dirti, però, ma sai che hai proprio. Ognuno ha le malattie che si merita, secondo me. Cioè, queste porcherie del. Carmine, che c'è? Carmine, aspetta. Che c'è Carmine? Ma è Carmine la sciolta. Ma chi sei? Inelegante. Carmine buona è inelegante sera, la sciolta. Carmine certo Giuseppe, qua va a essere. Ma chi è? Che hai detto? Che stai a dire? Giuseppe, ho detto, chi, ma chi deve essere? Chi deve essere? Carmine, ti sento male, però scusa, ti sento male, Carminuzzo. Che gente, che vuole Brunione? Che vuole? Aspetta, fatti richiamare un attimo. Io, che non si sente in cazzo. Younes, Torino, aspetta, si sentiva male, Carmine. Adesso ti richiamiamo. Younes, vai, che c'è Carmine. Eccomi. Voglio godermi tutto Carmine. Il finale di Carmine. Detto il karma. Detto il karma. Vai. Ciao David, Carmine è un idiota, ragazzi. Carmine, no, ma non è parlare, un idiota, amico mio. No, beh, no, è una persona ignorante. Non mi dare dell'idiota ignorante. A Carmine, che è un frequentatore di bordelli viennesi, di bordelli austriaci, anche svizzeri. Infatti, un uomo di grande spessore culturale, ma ti rendi dell'Italia conto? Vera, dell'Italia Giuseppe, profonda. Giuseppe, no, non è vero, l'Italia non è così, dai. L'Italia è un paese meraviglioso. E perché è Carmine? Che c'ha? Ma è una persona ignorante. Carmine, ci sei o no? Carmine, non c'è. Aspetta, adesso ti faccio rispondere direttamente da Carmine, così ti manda a fare in culo. Vai, dimmi. Allora, dimmi, dai. È un idiota, è un cretino. Cioè, l'Italia è famosa per l'arte, per le persone che sono passate. Poi ci troviamo uno come Carmine che abbassa anche il contesto del programma. Cioè, una persona così è inutile. Abbassa il contesto del programma, non guarda, è l'espressione è già giusta. È tutto abbastanza basso, devo dire. Non è che Carmine. No, l'intervento di Sgarbi non è un intervento basso. No, dai. Dico in generale agli ascoltatori. Vai. Che Younes, dimmi. Younes, come cazzo ti chiami? Ma perché devi dire così? Younes. No, Giuseppe, già che te c'è un nome di merda. Quindi sei bravo. No, io ho un nome normale, diciamo, comune. Anzi, biblico. È diventato biblico. Raro negli ultimi anni. Aspetta. Nome biblico. Carmine, hai sentito questo qua? Che cosa ma ti ho detto? Questo minchione, fammi capire una cosa. Ma questo detto che sei ignorante, l'espressione dell'Italia peggiore. Ma Ambrogio, sarà Ambrogio sicuramente, perché solo i frogi, solo i frogi non capiscono la cultura del bordello, solo i frogi. Ma non è i frodici era dei calcicchi del cazzo. Aspetta Carmine, dimmi, Younes, sono dimmi. Sposato, amo mia moglie, ho due figlie meravigliose. Bravo. Non ho bisogno di andare a puttana per godere. Quando muore che te ricordi che sei sposato e c'ha due figli meravigliosi, che minchia ti ricordi fra vent'anni, che minchia ti ricordi quando non ti si alza più, che cazzo ti ricordi? Ma fammi capire, due figli meravigliosi, allora, che vuol dire? Carmen, che vuol io il rapporto, mia moglie la tratto come se fosse la mia amante, come se fosse, cioè mia moglie è la mia amante, mia moglie è tutto, cioè, capisci? Non ho bisogno di andare a minimo. Questo è un ragionamento. Secondo me, quando arrivi a letto a tua moglie dici scusa cara, ti può mettere a pecora che dobbiamo fare qualcosina? Tu sei dei personaggi così, e poi quando magari ti vedo per strada come tutti sti quattro cogliona che vanno a mignotti. Ma che modo di parlare è di questo qua? Ma perché? Ma non va a mignotti. Aspetta Carmen, tu vorresti dar fuoco. Carmen è la femmina, io mi chiamo Carmine, amico mio, mi chiamo Carmine. Vabbè Carmine, calma, è un ragionamento interessante. Younes, se rispondo. Di nome meridionale. Cioè tu vorresti dar fuoco a tutti gli extracomunitari. No, ma no, mai, non l'ha mai detto. Ma se l'ha detto prima. Ma non è lui, è un altro. È un altro coglione. Pezzo di cesso, coglione sei tu, coglione. Che bello. Coglione di merda. Non l'ha mai detto, Younes, scusa. Lo hai accusato ingiustamente. Giustamente Carmine si ribella. No, non volevo, pensavo fosse il camionista di ma prima. No, che camionista? Carmine, rispondi ma tu. Ma mi pare che Giuseppe, ma mi pare che c'ha una voce di Pinocchio questo qua. Ma perché? Cioè ma c'ha una voce di Pinocchio. Ma che offesa questo? Sarebbe che anche questa? Ma che modo di fare è, cretino? Ma ti pare? Ma che modo di parlare è? Davide, buonasera, sono Parenzo, buonasera, no, sono lei Parenzo Staminchia, Parenzo Staminchia, ma quale cretino, tu che parla di tovaglie, di bicchiere, di cose, parla di sticcio, minchia parla la tovaglia, di cosa la tovaglia, parlare? Ma apparecchia tovaglia, metta a tovaglia che bicchiere, che posate, sì, ma che certo. Minchia ti resta una vita, a tovaglia o bicchiere? Ma poi pare che mangino cartone, che minchia te cambia, fammi capire. Che minchia te cambia. Voglio solo cambia. No, voglio capire. Oltre a tutto quello che lei ha descritto, signor Carmine. Lei chi? L'estetica e il buon gusto di, come dire, mangiare. Ma l'estetica, ma quando ti dai lo specchio, ma che minchia, ma chi ne parla di estetica? L'estetica tu non la devi guardare solo nelle cose materiali, perché ci sono altre cose da guardare. Tu prima no, di dire, una specchio, tavola ben apparecchiata aiuta anche ma a tavola, essere ma quando passetti tu che ti sei la tavola con la faccia che te ne trovi, che minchia serve che c'hai i posati con i cosi di Christian Dior? No, ma che Christian Dior, chi ha mai detto? Io sono convinto ma che capire, io sono capire, convinto io che a casa tua, a casa sua è tutto disgustoso, a partire dal padrone di casa, cioè lei, ci saranno le bottiglie, è tutto disgustoso a casa sua, cioè ci può essere anche una buona cuoca, ma una buona cuoca è un bel piatto servito male, perde quella potenza di sapore e di creatività. Faccia con questi occhi fondati che ti ritrovi, anche se tu mi metta la tovaglia di Christian Dior, ma non ho mai detto che non esiste come Merletto, sai, bicchieri quelle come Merletto, quelle con così tutti belle, no, tutti Merletto che mangono una piega alla tovaglia, Pacchiano, poi Pacchiano. Ti siedi tu e cadono tutti qua. No, ma è Pacchiano, i bicchieri con i Merletti sono Pacchiani, e ti dà lì con la faccia i bicchieri con i Merletti sono Pacchiani. Pacchiani. Senti Carmine, Carma, quando è che sei andato l'ultima volta al bordello? 16-17 giugno, Giuseppe, è una cosa, un'esperienza meravigliosa. Allora, facciamo così, siccome siamo in conclusione, Carmine. Schifoso. Domani, appuntamento a domani con le grandi avventure di Carmine da Roma, che ci racconterà la sua ultima esperienza nei bordelli austriaci, giusto, Carmine? Ah, logico, certo. Logico, 16, certo. Di qualcosa, la grande campagna di Carmine. 16, di qualcosa a Younes, che è ancora in collegamento da Torino. Che Younes, innanzitutto, che c'è un nome di merda, io c'avevo un nome di Pinocchio. Perché? Ma perché? Ma perché? Il mio nome sacro, quello, Carmine, quello d'accordo, la aspetta, Carmelo. Fermo là, Younes ha una, come dire, è uno che ha raccontato di una sua vita familiare tranquilla, una vita familiare fatta di amore, ma fatta certo, di, cosa c'è di male, Carmine? Silenziosa. Carmine, cosa c'è di male? Ma che c'è di male, Giuseppe? Ma questi qua sono tutti finti che chiamano, che dicono c'ha una moglie meravigliosa, e allora pure io c'ho i figli meravigliosi, qual è il problema? A me mi piace sticcio, a me mi piace cambiare. Questo si era io capito. Devo cambiare. Asmodeo, vai via. Asmodeo, vai via. Vai via. Asmodeo.